Si può fare. L'attualità anche d'estate di Alessio Maurizi. Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati, 18 e 6 minuti, siamo insieme fino alle 20 e 30, si può fare, l'attualità anche d'estate aspetta i vostri interventi per commentare i temi di attualità, 800 24 00 24, le nostre buone notizie, le nostre good news, visto che ragioniamo sempre di quello che si dovrebbe fare in Italia, ma non si riesce a fare, noi vi diciamo quello che si può fare prima di ogni pausa pubblicitaria e poi ci lasciamo ogni sera con una bella storia al termine del programma. Io sono Alessio Maurizi, se volete interagire con me su Twitter il mio account è chiocciola Ale Maurizi, quello del programma è chiocciola si può fare 24, siamo anche su Facebook dove pubblichiamo gli approfondimenti anche relativamente alle buone notizie. Questo programma si realizza grazie a Riccardo Buccero, Riccardo Poli, Andrea Piana in redazione, Valeria Bernardi in regia, Carlo Gabardini, il nostro autore, comico, attore, stagista, opinionista, però non abbiamo traccia, l'abbiamo avuto nelle prime settimane di questo programma durante l'estate sul set del film Il Pretore a Varese. Vediamo se riusciamo a contattarlo più avanti. Iniziamo con i titoli di Sky TG24. Berlusconi e i suoi non mollo, resto il capo del centrodestra, dal PDL avvertimento alla PD e riparte il pressing sul Colle. Il ministro Zanonato ottimista, il PIL tornerà a crescere entro la fine dell'anno, poi annuncia una soluzione a breve sul nodo IMU. In Egitto l'allerta nel Sinai, dopo l'uccisione di 24 poliziotti, cadute le accuse per Mubarak, sarà scarcerato entro 48 ore. A Roma scomparsi, due gemelli rumeni di 6 anni stavano giocando in un piazzale mentre i genitori erano a messa, ricerca in corso. 4 sbarchi di migranti in poche ore sulle coste siciliane, a Crotone il CIE devastato e chiuso dopo la protesta. Al via il nuovo redditometro che incrocerà incassi e tenore di vita al setaccio i conti degli ultimi 4 anni. 6 milioni di italiani in partenza scelgono le vacanze low cost, ma al centro nord allerta temporali. La curva laziale è squalificata per un turno dopo i cori razzisti di ieri, la Chieng annuncia una campagna di sensibilizzazione antirazzismo. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Non vi è dubbio che ha una posizione pregiudizialmente di chiusura politica. Prima ancora di valutare le nostre osservazioni non potrebbe conseguire appunto un atteggiamento di rottura politica, perché la convivenza, devo dire, sarebbe estremamente non praticabile. Però prima di lasciarmi, dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri. Devo dire che questa fretta da un lato è apprezzabile, dall'altro lato vogliamo capire cosa c'è dietro, perché non mi pare che vi siano intese vicine su nuovi modelli. Trovare le intese sulla legge elettorale è una cosa complessa e delicata e merita approfondimento e buona volontà. Tu dicevi sempre che vivevi per me. E allora io penso che se dobbiamo parlarci il linguaggio della verità dobbiamo dire che adesso abbiamo una grande occasione. E da qui, visto che siamo alla ripresa, la procedura di urgenza che la Camera dei Deputati ha dato perché dal 1 settembre si cominci in commissione a discutere con urgenza il cambiamento, a mio avviso, più urgente che ci sia, il cambiamento della legge elettorale, cambiare una legge elettorale che così com'è non funziona, una legge elettorale che consenta quella nuova, che a ottobre io penso la Camera dovrà approvare, che consenta a ognuno di noi di scegliere i propri rappresentanti e quindi consenta al cittadino arbitro di tornare arbitro. Questi erano Schifani e Lettang, Letta dal meeting di Rimini, di Comunione e Liberazione, che insomma come ogni estate segna un po' la fine della pausa e la ripresa della politica, insomma almeno delle dichiarazioni. Passata la pausa di Ferragosto, nel PDL subentra un po' più di nervosismo, interpretate meglio le parole del capo dello Stato Napolitano sulla sentenza della Cassazione, sull'agibilità politica di Berlusconi. Lo dice più sommessamente Schifani, ma lo dice più nettamente Daniela Santanchè: se il PD voterà secco per l'incandidabilità di Berlusconi al Senato tra qualche settimana, il PDL è pronto a far cadere il governo, a ritirare i ministri, a rompere questa alleanza col Partito Democratico. Cosa c'è, dice Schifani, dietro questa fretta annunciata ieri da Letta di riformare la legge elettorale? Per dire la verità, fretta solo a parole per ora, perché poi difatti non se ne vedono. Sentiamo Formigoni, l'ex patron forse di Comunione e Liberazione, del meeting di Rimini, qualche polemica sulla sua mancata partecipazione ai dibattiti ufficiali, sentiamolo. Il PD deve stare molto attento, perché siamo alleati, forse non tutto il PD ha capito questa condizione straordinaria in cui ci troviamo. Siamo storicamente avversari, ma uniti insieme per un governo che deve fare il servizio del paese, e tra alleati non ci si fanno sgarbi. Dame, se mi vuoi lasciare. Avete visto il modo con cui la gente mi ha accolto con questi applausi? Mi sentono uno dei loro, mi sentono un loro leader, qualunque sia la situazione in cui uno si trova a combattere. Mi sentono uno di loro, sono un leader. Comunque non è stato invitato ai dibattiti ufficiali, lui minimizza al meeting di Rimini. Peseranno le inchieste sulla corruzione che lo hanno coinvolto, oppure semplicemente, come hanno detto gli organizzatori, non è più presidente della regione Lombardia, quindi Formigoni non è stato invitato a partecipare ai dibattiti ufficiali, al meeting per questo. 800 24 00 24. E visto che il discorso del momento è questo, ve lo chiediamo anche a voi, cari ascoltatori: grazia sì o grazia no? Che grazia sia, Napolitano dovrebbe concedere la grazia a Napolitano, 800 scusate, a Berlusconi, 800 24 00 24. E poi l'incandidabilità bisognerà votarla così secca, come dice il PD, senza tanto stare a discutere, oppure come chiede il PDL bisogna aprire un supplemento di indagini, di discussioni, visto il ruolo di Berlusconi come capo del centrodestra? 800 24 00 24. Già che ci siamo, sentiamo anche chi sentiamo, Bossi o Salvini? Sempre Salvini, sentiamo Salvini a proposito di questa emergenza di sbarchi in Italia. C'è troppa ipocrisia, dice, fare arrivare tutta questa gente in Italia dove non c'è più spazio. In Italia non c'è più spazio, non c'è più spazio per gli italiani, figurarsi per chi arriva dall'altra parte del mondo. E quindi chi arriva cosa bisogna fare? Si cura, si aiuta e si riporta indietro. Come fanno in Svizzera? Lei provi ad andare in Svizzera, provi ad andare negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, e poi mi racconta come la accolgono. Tu dicevi sempre che vivevi per me. Io aiuto chiunque, io sono donatore di sangue da quando ho 18 anni, per quello che ne so io il mio sangue va a rom, a clandestini, a delinquenti, a farabutti, non so a chi va la mia sacca di sangue, quindi io aiuto il prossimo facendo volontariato da 20 anni. Detto questo, far sbarcare migliaia di persone promettendo loro un futuro che non c'è da queste parti è ipocrisia e follia per loro e per noi. Dimmi almeno perché. Io non so capire. E salutiamo l'onorevole Roberto Giachetti del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera a voi. Quando si sente parlare di legge elettorale non possiamo che chiedere a lei, che ha fatto anche lo sciopero della fame, se lo ricorderanno, quando era, che periodo era? Era esattamente un anno fa. Un anno fa. Nel frattempo naturalmente non è successo nulla, la legge elettorale è stata prima incardinata. Ma che fretta c'è, dice giustamente Schifani. Esatto, cosa c'è dietro questa fretta sospetta? Perché assolutamente, sono solo anni che discutiamo. Sono solo anni. Ieri devo dire che queste parole di Letta, che poi i giornali ci hanno titolato sopra, anche a me hanno un po' sorpreso, non che questo conti qualcosa, perché è stato un riferimento, diciamo così, di politica concreta, mentre parlava di altissimi valori, l'Europa, la persona umana, il meeting di Comunione e Liberazione, ma c'è è uscito con questa cosa sulla legge elettorale. Come mai, Giachetti, secondo lei? C'è un'accelerazione o no? Lei ci crede? Ma no, guardi, diciamo, queste accelerazioni, io diciamo non abbiamo il tempo, ma le potrei portare un paio di ore di dichiarazioni che vanno dall'anno scorso fino ad oggi, che si alternano di siamo pronti, è urgente, sì, beh, certo. Salvo il fatto che poi diciamo non succede mai nulla. Continuiamo a votare con questa legge elettorale. Quindi diciamo il fatto che il Presidente del Consiglio sia consapevole, avendolo detto anche nelle sue dichiarazioni programmatiche, dell'esigenza di modificare questa legge elettorale. Questo lo sapevamo, però se perché non altro adesso? Perché, se non altro perché lo abbiamo detto in campagna elettorale, sì, in tutti i modi. Perché adesso, diciamo, perché secondo me è del tutto evidente che accelerando una situazione diciamo che da fibrillante sta per precipitare, da quello che si capisce diciamo dalle dichiarazioni del PDL e via dicendo, forse un rigurgito di lealtà nei confronti dell'elettorato, avendo dichiarato in tutte le salse che avremmo modificato la legge elettorale, arriva. Vorrei solo segnalare che tre mesi fa, è lo stesso Presidente del Consiglio che mi chiamò direttamente per dirmi che la mia mozione, firmata da 100 deputati di tutti i partiti, che chiedeva il di annullare il Porcellum e di tornare al Mattarellum, avrebbe minato il governo e fatto cadere il governo. Adesso improvvisamente diciamo invece la legge elettorale diventa una priorità. Questo purtroppo dovete fare un'intervista al Presidente del Consiglio per e sapere a tutti quelli che hanno cambiato idea. Io sì, ho sempre la mia idea e rimane sempre quella. Però lei teme, Giachetti, oggi l'ha detto chiaramente, che per come è stato incardinato l'iter al Senato anziché alla Camera, al Senato dove i numeri del PD sono più stretti, che si vada verso una riformetta, cioè verso una, non una cancellazione del Porcellum, col quale non si può tornare a votare, questo è evidente, ma che cosa? Ma è una modifica, allora diciamo il tema è semplice, a dicembre abbiamo la decisione della Corte Costituzionale, quantomeno sull'ammissibilità, su questa legge elettorale. Lo stesso Presidente Letta ieri ha parlato addirittura di ottobre, quindi è del tutto evidente che se si procede a tappe diciamo serrate, ammesso che effettivamente questo accada, sulla legge elettorale è molto probabile che al di là dei dettagli l'impronta della legge elettorale resterà quella che esce dalla Camera che la esamina per prima. Non a caso, dopo la mozione che io ho presentato, ho preso un'altra iniziativa che è quella dell'urgenza e noi abbiamo raccolto le firme anche qui di tutti i deputati, di tutti i partiti, sull'urgenza per le proposte che riguardavano il Mattarellum, urgenza che è stata decisa dalla conferenza dei capigruppo. Una settimana dopo il Senato fa la stessa cosa e però fa una cosa in più, con una cosa un po' finta, nel senso che si riunisce la Commissione Affari Costituzionali, ci sono 10 parole della Presidente della Commissione Affari Costituzionali, 5 dell'onorevole Bruno, del senatore Bruno del Partito Democratico e 4 del senatore Calderoli, sì, e sostanzialmente cosa accade? Che si incardina il provvedimento al Senato, il che significa che in base a una convenzione che c'è, lì dove è, al di là dell'urgenza dove è stata votata per prima, lì dove è incardinato il provvedimento si comincia. Può sembrare una cosa così irrilevante agli ascoltatori giustamente, ma c'ha una sostanza politica fondamentale, come lei ricordava, che mentre al Senato noi ovviamente non abbiamo autonomamente, quindi a prescindere, lo dico chiaramente, da rapporti con il Movimento 5 Stelle ed altri dicendo, non abbiamo una maggioranza nostra, sì, alla Camera invece c'è una maggioranza, perché è il premio di maggioranza che ci è stato dato con il PD e SEL, che ha 40 deputati, noi siamo in grado di, se cominciamo alla Camera, qualora vi sia la volontà politica, di far uscire dalla Camera una legge elettorale che cancella, per essere molto chiari, il Porcellum e diciamo ci riporta al Mattarellum, che io non considero la migliore delle leggi, ma certamente... Però così, Giachetti, lei dà per scontato che è il PDL che non vuole cancellare il Porcellum. Ma è scontato, non è che lo dico io, lo dicono loro, basta che lei sente Schifani, Gasparri, tutti quelli che sono intervenuti, compreso Quagliariello, dicono che loro sono per una correzione. E la correzione, come è noto, forse non a tutti gli ascoltatori, è o l'eliminazione del premio di maggioranza, oppure elevare la soglia per raggiungere il premio di maggioranza al 40%, il che comporta che nessuno raggiungerà mai le larghe intese per i prossimi 15 anni. Perché il 40% nessuno lo raggiunge, no Giachetti? È tutto evidente, quindi diciamo trasformiamo perché il in questo momento, cioè il suo ragionamento è questo, se ho capito bene, il PDL, che è più debole in questo momento, cerca di tenersi agganciato con questa modifica della riforma elettorale alle larghe intese al PD, mentre invece a voi converrebbe una legge elettorale che libera tutti, cioè chi vince governa. Guardi, il PDL è di una coerenza granitica su questo, perché loro hanno inventato questa legge e l'hanno difesa a denti stretti sempre e continuano a difenderla, quindi non ho nulla da dire al PDL che fa la sua scelta. Il problema è che cosa vuole il PD? Perché se il PD, come ha detto in campagna elettorale e come ha ripetuto decine e centinaia di volte, è per la cancellazione del Porcellum e per il ritorno al Mattarellum, allora deve, come dire, essere conseguente con questo. L'unica cosa che non è possibile fare è non dire nulla e poi di fatto predisporci a un accordo col PDL che vuole esattamente. Quindi quello che ha detto Letta ieri, praticamente tradotto da parte di Giachetti, è: si farà una modifica, una piccola modifica che non cambia nella sostanza nulla, secondo quello che dice. Mi piacerebbe che Letta dicesse esplicitamente che cosa pensa quando dice superare il porcellum. La parola superare il porcellum ci tiene tutti uniti, però poi c'è una declinazione. Per me superare il porcellum vuol dire cancellarlo e fare un'altra cosa. Però, per il PDL vuol dire correggerlo e mi devo sapere che cosa vogliono fare gli altri. Per lei che è così importante questa riforma, il PD dovrebbe arrivare fino a che punto su questo aspetto qua? Cioè fino a rompere col PDL l'alleanza di governo? No, questa, come tutti hanno sempre sostenuto, soprattutto per quanto riguarda questa che è la norma di salvaguardia, la legge Ponte, non stiamo parlando della legge definitiva che dovrebbe arrivare dopo le riforme, costituzioni e via dicendo, è una materia che spetta liberamente al Parlamento. Quindi siccome la legge elettorale tendenzialmente dovrebbe essere fatta con la maggioranza più ampia possibile, si vada in Parlamento e si verifichi qual è la proposta che ha la maggioranza maggiore, che ha la più larga maggioranza, e vedrà che molto probabilmente, non perché lo dico io, ma perché ci sono già state delle decisioni che sono state prese sulla materia, probabilmente la legge per il ritorno al Mattarellum come norma di salvaguardia avrebbe una maggioranza decisamente maggiore rispetto a quella che non avrebbe la correzione del porcellum, alla quale dovremmo essere sottomessi noi come PD, non essendo d'accordo. Quindi il PD, lei dice, dovrebbe fare una sua proposta in Parlamento a prescindere da quello che vuole il PDL. Il PD deve prendere una decisione politica seria, così come ha fatto sulla legge finale, ha detto doppio turno alla francese, e dire la nostra proposta è questa, e verificare in Parlamento, quindi prescindendo da maggioranza, cose e via dicendo, qual è, diciamo, se c'è una maggioranza su questo. Quindi, a prescindendo dalla maggioranza, cioè anche da quella che è la posizione del PDL, che è in questo momento l'alleato di governo. Sì. Sulla legge elettorale abbiamo sempre detto che è una decisione parlamentare, non è una decisione di maggioranza, tant'è che si è sempre detto che il governo non dovrebbe intervenire su una materia del genere, perché spetta al Parlamento. Al Parlamento si formi una maggioranza la più larga possibile per stabilire qual è la nuova legge elettorale. Senta, Giachetti, oggi la notizia, mi sembra, quella di Zanonato, il ministro dello sviluppo economico, che dice per la prima volta l'IMU si va verso la cancellazione sulla prima casa, perché Zanonato in particolare aveva sempre detto non ci sono risorse. Il suo partito ha sempre detto che sarebbe stato un regalo ai ricchi abolire l'IMU sulla prima casa. Lei che ne pensa? Guardi, io ho una riflessione molto semplice. Se vi è la possibilità di eliminare l'IMU, non capisco per quale motivo il Partito Democratico si debba impiccare a dire no, noi vogliamo per forza tassare la gente e via dicendo. Il punto fondamentale, al di là di quello che dice Zanonato, Giachetti o chiunque altro, è: ci sono le condizioni per intervenire e eliminare l'IMU? Se ci sono, lo si faccia. Se non però, ci sono. Scusi, stando alle dichiarazioni dei ministri, Saccomanni prima di Ferragosto aveva detto non ci sono le risorse per fare questo. Adesso c'è la crisi. Guardi, lei fotografa esattamente una realtà rispetto alla quale vi è qualche difficoltà a commentare. Nel senso che. No, sembra che il PD abbia cambiato posizione, forse anche il governo. Adesso l'IMU, come chiede il PDL, si può cancellare. Sarebbe una vittoria per il PDL questa? Ma io penso che, diciamo, se noi siamo nelle condizioni di alleggerire la pressione fiscale sugli italiani, è una vittoria per tutti. Il problema è capire, vi sono le condizioni? Se vi sono le condizioni, lo si fa, a prescindere da chi lo ha detto o non l'ha detto. Però Saccomanni aveva detto di no, Saccomanni, che è ministro dell'economia, aveva detto di no. Quindi se non ci fossero risorse e bisognasse andarle a prendere forzatamente, sarebbe una forzatura, secondo lei? Sono esattamente d'accordo con lei. Non dimentichi che il PDL in campagna elettorale aveva addirittura detto che avrebbe rimborsato l'IMU pagata nel 2012. Addirittura Berlusconi disse che l'avrebbe rimborsata con i soldi suoi. Quindi, diciamo, quello che si dice, purtroppo, diciamo, in questo paese in cui la politica funziona così, conta fino a quello che l'hai detto nel momento in cui l'hai detto, poi il giorno dopo già non conta più. Detto questo, so perfettamente, sono consapevole come lei, che Saccomanni ha detto determinate cose. Allora, a questo punto, al di là delle dichiarazioni del singolo ministro, sarebbe utile, ed è molto utile, che da qui al 30 di agosto, quando mi pare che la decisione debba essere presa collegialmente dal governo, esca una posizione chiara. Io personalmente, se è possibile, vi sono le condizioni economiche e finanziarie per abolire l'IMU, non vedo per quale motivo noi dobbiamo essere contrari all'abolizione dell'IMU. È chiaro che questo non può andare, tanto per essere chiari, sì, addosso al tema del non aumento dell'IVA. Quindi è chiaro che deve essere dentro un equilibrio complessivo. Se finalmente, perché cala lo spread, perché non so per quale motivo abbiamo trovato soldi che non avevamo immaginato prima, e si trova il modo di abolire l'IMU senza che questo crei danni su altre questioni, io sono non vedo perché non dobbiamo essere felici di farlo. Dobbiamo essere felici. Lei è alla Camera e non al Senato, l'incandidabilità si voterà proprio al Senato. Cosa voterà il suo partito? Voterà, come è stato detto, compattamente per far decadere Berlusconi? Mi pare che sia l'unica cosa, non a caso è la cosa che fa fibrillare un po' il PDL, mi pare che è l'unica cosa sulla quale, ringraziando Dio, fino a questo momento il PDL non ha avuto dubbi, quindi mi pare che la linea sia una linea molto chiara e a mio avviso anche molto giusta. Ma ci sarà un supplemento di indagine come chiede il PDL oppure questa cosa va votata anche abbastanza rapidamente? No, guardi, adesso io stando alla Camera ovviamente non conosco come funzionano le cose, le carte del Senato, so quanto in tante occasioni il PDL abbia fatto melina per spostare la lancetta su delle questioni che riguardavano Berlusconi anche alla Camera, quindi io garantendo tutti i livelli di garanzia alla difesa, al soggetto interessato e via dicendo, però penso che la decisione debba essere presa nei tempi più normali e senza dilatazioni di alcun tipo. Poi ovviamente vanno garantite tutti gli elementi della difesa e vanno garantiti tutte vanno date tutte le garanzie a Berlusconi, però non mi pare che ci sia molto da discutere, mi pare semplicemente che ci sia da applicare una sentenza e la legge, quindi incrociando queste due cose i tempi sono abbastanza segnati. Avremo tempo per vedere come andrà a finire, credo, se ne continuerà a parlare ancora. Intanto grazie, buona serata. Grazie a lei. And now, the good news! iFoodShare è una piattaforma online creata da un gruppo di ragazzi di Caltagirone che permette di condividere il cibo e gli alimenti in eccesso con chi ne ha bisogno. I privati, le aziende agricole o la grande distribuzione segnalano un'eccedenza e gli utenti possono recuperarla gratuitamente. Dalla rete alla pancia! ...800-24-00-24 ci ha chiamato Daniel dalla provincia di Cremona. Buonasera Daniel. Buonasera. Prego. Io vorrei parlare sul problema di Berlusconi, sulla sentenza di Berlusconi. Sì. E sullo che fa il PDL, di prima di mettere il problema di Berlusconi che del paese. Io penso che è ora di dire basta. Già sono da 20 anni che abbiamo tanti problemi. Tanti problemi abbiamo su questo paese. Sta raggiungendo 3 milioni e mezzo disoccupati. E che loro che minacciano, che fanno la minaccia di attaccare la spina, sì, Berlusconi, già lui ha avuto una sentenza. Se deve rispettare e basta. Se deve rispettare igual. Prima il paese e poi le persone. Daniel, lei di dov'è? Io sono sudamericano. Ho capito. Va bene, grazie Daniel. Fra l'altro, visto che lei è straniero, mi viene in mente un'altra cosa. Proviamo un esperimento. Amici egiziani d'Italia, provate a chiamarci all'800-24-00-24, aiutateci a capire cosa sta succedendo in Egitto, perché qualcuno sui giornali ha scritto che gli italiani non si appassionano a questa vicenda perché non riescono a capire, è abbastanza vero, chi sono i buoni, chi sono i cattivi, cosa sta succedendo esattamente in Egitto, al di là di quello che c'è sui giornali. I giornali leggono in pochi, e quindi se avete voglia chiamateci, perché questa è un'opportunità per voi di parlare del vostro paese e per noi per capirci qualcosa di più. Nicola da Como, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Ha già detto tutto esattamente il buon Daniel prima di me, ha ripetuto le parole che ho detto alla centralinista. Io poi ho il difetto di averlo in antipatia, anche se non sono un elettore della sinistra o del centro-sinistra, però non se ne può veramente più, cioè con tutti i problemi che ci sono. Io penso, quando sento a dire che resterà in campo, che farà tutto per il bene del paese, quando tutte le persone con un minimo di cognizione, adesso non voglio dar degli stupidi a chi la pensa diversamente da me, ma ormai l'abbiamo capito tutti chi è, cosa ha fatto, il paese è allo sfascio, è stato gestito per più di 10 anni quantomeno da questo signore che ha fatto il bello e il cattivo tempo, compreso aiutato a partorire quella ciofeca di legge elettorale che abbiamo, e siamo qua a sentirci dire che lui non chiede la grazia, che un povero anziano di 87 anni è lì a tenere in mano la barra diritta di questo paese, a dare la grazia a uno di 77 anni. Io ne ho 40, purtroppo non ho combinato molto nella mia vita, i momenti sono quelli che sono. E lei cosa diciamo però a quei 7 milioni e mezzo di elettori che hanno votato per Berlusconi alle ultime elezioni? Guardi, io sono convinto e ne ho parlato con un po' di persone, perché comunque la politica mi piace, la seguo parecchio, che tante persone l'hanno votato per la disperazione di votare dalle altre parti, poca fiducia nel Movimento 5 Stelle, disperazione e delusione completa di quello che ha fatto il centro-sinistra, paura dell'estrema sinistra, quindi Vendola o chi per essi, e quindi si sono turati il naso, hanno detto questo almeno ci rende lici, ma sono comunque la metà di quei 6 milioni e mezzo, 7, ha detto allora naturalmente sempre 10 milioni, la metà di quei 6 milioni, di quei 6 milioni e mezzo, 7, come ha visto la sentenza, ha detto boh, forse c'è un motivo, forse è vero quello che mi dicono gli amici che la pensano diversamente, basta, questo parla ancora va di bene, fare il bene, bene del paese. A fine anni 80, primi anni 90, era sulla soglia della bancarotta, lo sappiamo com'era, si è messo in politica, è stato scaltro, bravissimo, basta però, che va molli bene, la presa sul Nicola. Paese. Abbiamo capito quello che lei dice. 7 milioni e mezzo di elettori PDL alla Camera, scorsa elezione, 9 circa, considerato, se non ricordo male, l'alleanza, quindi comunque con le indicazioni di Berlusconi. Tanto per chiarire, per ricordare i numeri. Alessio da Lecco, buonasera. Buonasera a lei, dottor Maurizi. Le volevo rubare giusto un secondo, però vabbè, vedo che i miei predecessori hanno detto semplicemente quello che volevo dire io. Oh, ma non è che l'abbiamo fatta apposta, siamo partiti secchi con 3 interventi, tutti lo stesso tono. Alessio, mi sento di aggiungere una cosa, mi auguro che il Partito Democratico, io guardi, ho 34 anni, ho votato per 15 anni il Partito Democratico, eccetto l'ultimo anno, e mi auguro che siano uniti e compatti per votarli in candidabilità di Berlusconi, altrimenti guardi, lo dico chiaramente, straccerei la tessera, ma come sarei pronto a farlo io, credo che lo potrebbero tranquillamente fare molti altri elettori del Partito Democratico o ex elettori, sì. Tutto qua, quindi mi auguro, credo che c'è un vecchio detto che dice tutto diviene, tutto scorre, quindi Alessio, lo chiedo anche a lei, non c'è un problema per gli elettori del PDL che hanno votato Berlusconi e vorrebbero rivotarlo, secondo lei? Guardi, io da quello che vedo, da quello che sento e da quello che leggo, gli elettori di Berlusconi sono molto legati al loro leader. Appunto. Quindi credo che continueranno a votarlo, però io purtroppo per fortuna non faccio parte di quella schiera. Sì, va bene, grazie Alessio. Tra l'altro questo è un aspetto importante, perché è vero che tutto sommato questa cosa dell'incandidabilità per Berlusconi conta fino a un certo punto. Anche alle scorse elezioni si era detto non è lui il candidato premier, è Alfano, Berlusconi resta come leader della coalizione di centrodestra, quindi tutto sommato politicamente Berlusconi può rimanere a fare il leader del centrodestra, del PDL, di Forza Italia, e questo dal punto di vista elettorale probabilmente non toglie nulla ai suoi elettori e non cambia di molto le cose. Poi chiaramente c'è tutto il resto, ma dal punto di vista politico questo è vero. Cosimo da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Sì. Io sentendo un intervento prima del vostro ospite, credo Giacchetti, che addossava tutte le colpe della legge elettorale al PDL solo ed esclusivamente per correttezza da un punto di vista storico, volevo ricordare che la legge attuale elettorale è stata ricalcata pressoché identica dalla legge regionale toscana. Probabilmente Verdini ha suggerito al PDL che questa legge era sicuramente la migliore legge per mantenere lo status quo. Quindi lei dice chi è causa del suo mal pianga se stesso, cioè, insomma, è una cosa del farina. Una grande battaglia, sì. È una legge che appunto è stata approvata prima in Toscana e poi successivamente è stata esportata a livello nazionale. Una però è vero che a livello nazionale l'ha voluta il PDL e la Lega e il PD non c'entrava nulla. Però in Toscana al potere sì. C'era il PD e a livello nazionale c'era il PDL, ma l'obiettivo era sempre quello di mantenere lo status quo, che in politica sì. Non dovrebbe essere mai un obiettivo da perseguire. Il punto però è che questa legge elettorale non garantisce una reale governabilità nemmeno a chi ha la maggioranza. Perché l'abbiamo visto più volte i risultati, no? Quali sono? Questo premio di maggioranza squilibrata alla Camera e al Senato, quindi non è questione solo di chi è al potere, o no, Cosimo? Ma c'è, secondo me, un problema enorme di rappresentanza, cioè se il cittadino non ha nemmeno la possibilità di scegliere effettivamente chi siede su quelle poltrone è veramente una delega in bianco a un partito, e poi vediamo sia il PD che il PDL sono partiti che non hanno una testa al momento, comunque sia l'hanno ufficialmente ma non realmente, per cui è comunque un vuoto di potere, una delega totalmente in bianco che poi si presta a tutte le manipolazioni che abbiamo visto poi. Sicuramente è una legge assolutamente deleteria, ma che purtroppo è figlia di entrambi gli schieramenti. Grazie anche a Cosimo. Sentiamo Lucia che ci chiama dalla Spezia. Buonasera. Sì, buonasera. Io non sono approfondita nella politica, però mi piace la giustizia. Quindi per un senso di giustizia e anche per rispetto alla magistratura, alle sue decisioni, vorrei l'incandidabilità di Berlusconi e lo stesso trattamento che farebbero qualsiasi cittadino. Grazie anche a lei, Lucia. 800 24 00 24. Chi abbiamo da sentire? Qualcuno? Non abbiamo ancora nessuno. Leggiamo qualche messaggio, non c'è molto sugli argomenti, su Facebook, non so se avete voi, se siete al corrente di quello che stanno postando gli ascoltatori. C'è chi ci ricorda cose che hanno a che fare con la Lega su Twitter, però non c'entrano molto con l'andamento adesso del programma. Non abbiamo nessuno in linea, non abbiamo niente in questo momento. Allora potremmo sentire tra poco il nostro prossimo ospite, o no? Sì, vediamo se ce l'abbiamo, una storia incredibile, no, non ce l'abbiamo ancora il nostro prossimo ospite che però ve lo annuncio, perché è la storia incredibile di un'azienda che è sparita nel periodo di Ferragosto da Formigine e si è delocalizzata, crediamo, in Polonia. Cercheremo di capire qualcosa di più su questo. Cosa mi dite? Sulla 2 cosa abbiamo? L'ospite. Oh, abbiamo l'ospite. Allora, diamo il benvenuto a Cesare Piazzolla, segretario generale della FIOM di Modena, che ci racconta questa incredibile storia. Buonasera Piazzolla. Buonasera anche a voi. Allora, io l'ho letta, credo, sul Fatto Quotidiano, il 16 di agosto, può darsi, no? Il 15 di agosto. E la notte di Ferragosto avete scoperto che questa azienda di 40 dipendenti a Formigine, provincia di Modena, era sostanzialmente sparita. Poi avete avuto conferma dalla dirigenza che in effetti si stava organizzando un trasferimento, una delocalizzazione in Polonia, perché il dirigente di questa azienda dice che non ce la fa più a stare in Italia a produrre. Una storia che abbiamo già sentito dire tante volte. La cosa incredibile però è stata la modalità con cui sarebbe avvenuta questa cosa. Ci conferma quello che abbiamo letto? Sì, i fatti sono avvenuti in questa maniera. Noi la sera del 13 di agosto siamo venuti a conoscenza per via traversa del fatto comunque che stavano succedendo delle robe non consuete all'interno di questa impresa. Ci siamo precipitati qui e abbiamo constatato che l'azienda era completamente vuota, tranne l'ultimo camion che stava uscendo col materiale. Siamo riusciti a bloccare l'ultimo camion di materiale, sì. E da quel momento lì i lavoratori stanno presidiando lo stabilimento, che è formalmente vuoto con questo camion dentro, in attesa che l'azienda si faccia viva per aprire una trattativa che possa permetterci di trovare una soluzione a questa incresciosa vicenda. Ma voi non avete avuto avvisaglie di nessun tipo? No, i lavoratori addirittura nel mese di luglio hanno fatto degli straordinari comandati dall'impresa perché c'era tanto da lavorare e si sono salutati il 2 di agosto dicendoci riposatevi, state in ferie, riposatevi. Nessuna comunicazione 26... ai sindacati, niente? Assolutamente no, la comunicazione l'avrebbero inviata, guarda caso, il giorno dopo che l'ultimo camion era uscito dallo stabilimento, che noi chiaramente quella sera lì abbiamo chiesto di non non mandarla via, perché sarebbe stato ulteriore benzina sul fuoco. And now, the good news! Da qualche settimana il Comune di Milano ha reso più facile praticare l'arte di strada. Gli artisti potranno prenotare una postazione dal web ed esibirsi in piena libertà, senza carte bollate. Ci sarà anche un comitato che assegnerà ai più bravi i luoghi di maggior pregio della città. Venghino, signori, venghino! È possibile che un'azienda sparisca di punto in bianco, un'azienda di 40 dipendenti? Evidentemente sì, accade a Formigine, in provincia di Modena, si tratta della Firem. Piazzola, che cosa produce la Firem? Cosa produceva a questo punto forse? La Firem produceva resistenze elettriche prettamente per il settore elettrodomestico, per fare il daspiro, cucina e quant'altro. Sono stati fatti addirittura gli straordinari a luglio, cioè la produzione non mancava. No, la produzione non è mancata, devo dire che probabilmente è una delle poche aziende in provincia di Modena che in questi 5 anni ha fatto poca cassa integrazione, nei 5 anni di crisi che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. Quindi se dovevo guardare, come posso dire, il panorama delle imprese modenesi, sì, era una delle poche aziende. Cioè che non è un'impresa che non va, che non funziona, che non ce la fa, che è dissanguata dalla crisi e che decide a un certo punto di chiudere o di trasferirsi. Cioè, sull'aspetto produttivo l'azienda non ha avuto dei grossi problemi, aveva probabilmente dei problemi in termini finanziari, ma che adesso non dà rapporto. Perché la proprietà, che ha rilasciato un'unica intervista, noi abbiamo cercato di contattarlo, Fabrizio Pedroni, che è il numero uno della Firem, non so se sarà presidente, amministratore delegato, dice che ha avuto difficoltà con le banche, che non gli è stato dato il credito, che ha avuto problemi anche con i sindacati perché aveva licenziato per giusta causa alcuni dipendenti, sembra un po' la storia della Fiat, che però poi sono stati reintegrati forzatamente, e anche col sindaco di Formigine non c'era collaborazione. Io tutto questo, ribadisco, non giustifica assolutamente quello che hanno fatto, continuo a dire. Se l'azienda aveva delle difficoltà di qualsiasi tipo, il sindacato, così come sta facendo soprattutto in questi ultimi 5 anni, si è sempre reso disponibile per trovare una soluzione, al cavolo. Cioè, non possiamo pensare che un'azienda decida durante la notte come decarbonare, di far uscire gli impianti. Poi lui dice che non è stato fatto durante la notte, ma tutta la luce del sole di giorno. Io all'ultimo camion ho visto che c'ero io quando l'abbiamo bloccato, era le 11 di sera, quindi non è assolutamente vero. A me l'ultimo camion le garantisco io che stavo uscendo alle 11 di sera, questo qua glielo garantisco io. Io non so gli altri 20 che sono andati via, ma l'ultimo era alle 11 di sera. Ma al momento non avete una comunicazione dell'azienda ufficiale? No, domani ci doveva essere un incontro in comune, perché le istituzioni locali si sono mobilitate subito. E incontro che sembra che l'azienda declini l'invito. E adesso so che si sta muovendo le diplomazie per fare in modo che almeno domani un primo momento di incontro ci sia. Non so se ci sarà, perché da questo incontro, sulla base delle informazioni che avremo, valuteremo il da farsi, perché sicuramente noi non possiamo accettare nel merito e nel metodo quello che la Firem ha fatto. Perché voglio dire, non è che è in discussione il fatto che un imprenditore a un certo punto, cioè anche di quello si può discutere, no? Per esempio, sul caso Fiat se ne è parlato molto, la Fiat che ogni tanto dice non si può lavorare in Italia, poi dice non andremo all'estero, andremo all'estero. Però qua la cosa incredibile sono a quello che sappiamo, le modalità con cui è avvenuto, cioè con straordinari fatti fino a luglio, lavoratori in ferie, e poi a un certo punto paf, l'azienda che chiude, si smonta tutto e avete però la certezza che sono stati trasferiti i macchinari in Polonia? Certo, la certezza ce l'abbiamo, confermata anche dall'azienda. Dove in Polonia? Adesso il paese di preciso non glielo so dire, comunque verso la Germania, mi hanno detto, nella regione verso la Germania. Ma come fate ad avere questa certezza se non sapete neanche dove? Non so di preciso dove, perché non mi ricordo il nome, ma all'incontro, visto che martedì sera, quando è andato via il camion, quando voleva andare via il camion, abbiamo fatto un incontro con la proprietà, l'azienda ci ha confermato che la roba andava in Polonia. E ci sono anche 5 o 6 lavoratori Firem in Polonia che ci confermano che la roba è là. Ma e quindi lei come si spiega tutto quello che è successo? Cioè un colpo di testa, un colpo di sole ad agosto? Io non so se sia un colpo di sole, sicuramente un'idea di qualcuno che non capisce che in questo paese ci sono anche delle regole da dover rispettare. Visto e considerato che purtroppo altre situazioni di crisi le abbiamo dovute affrontare, le abbiamo sempre affrontate, abbiamo sempre trovato la soluzione, probabilmente se avesse avuto la pazienza e anche le modalità per poterlo fare, probabilmente avremmo trovato le soluzioni anche qui. Ma in questo campo da gioco è difficile giocare la partita in un'azienda che ormai è totalmente vuota, totalmente smobilitata con le modalità con cui l'ha fatto. E i dipendenti che cosa dicono? Perché Pedroni dice che aveva un buon rapporto anche con alcuni di questi dipendenti. Adesso non so, questo rapporto probabilmente sarà un po' forse difficile. Forse con alcuni pochi, mantenerlo. Con molti, almeno quello che si sente davanti ai cancelli, visto che è un'azienda che sindacalmente, a me è un'azienda molto sindacalizzata, quindi molte cose le abbiamo sapute anche nella quotidianità davanti ai cancelli. È di un'azienda che aveva un rapporto quasi da padre padrone all'interno dell'impresa. Non è un caso l'affermazione di oggi sui giornali: io in casa mia faccio quello che mi pare. Adesso questa è stata un po' l'affermazione che oggi c'era sui giornali, una dichiarazione del Pedroni, quindi non è del tutto vero. Probabilmente con qualcheduno avrà avuto buoni rapporti, con tanti altri questi buoni rapporti non c'erano. Ma e quindi a questo punto cosa chiedono gli ex dipendenti a questo punto della Firem? Visto che l'azienda non c'è più, cosa potete fare? No, noi chiediamo all'azienda che faccia, come stanno dicendo anche tutti i partiti politici che si sono venuti a trovare, che faccia un passo indietro, che ripristini le condizioni perché si attivi del lavoro all'interno degli stabilimenti Firem a Formigine. Cioè noi non possiamo risolvere la questione con qualche altra soluzione. Noi abbiamo bisogno che in questa zona non si depauperi una struttura di 50 dipendenti che dava da mangiare a 50 famiglie, con un territorio che in questi 50 anni in cui la Firem ha lavorato ha dato tanto alla Firem, visto che questo territorio ha permesso anche ai padroni della Firem di arricchirsi negli anni d'oro. Quindi non mi sembra giusto e corretto che nel momento di difficoltà, perché l'azienda è andata bene e i proprietari si sono arricchiti, sono ricchi i proprietari della Firem. Ma questa è un'azienda che va avanti da 50 anni, penso che se le cose non andavano bene forse l'avrebbero chiusa prima, mi viene da dire. Non ho capito, scusi. Questa è un'azienda che va avanti da 50 anni, sì. Tramandata dal nonno, dal papà e dal figlio, quindi se le cose non andavano bene... Può darsi che a un certo punto le cose non siano andate più così bene, evidentemente. Sì, ma ci sono delle modalità diverse. Noi a Modena non abbiamo nessuna azienda che ha deciso di punti in bianco di delocalizzarsi. Sono trovate i giusti equilibri, le giuste soluzioni che hanno permesso a tutti quanti di trovare una giusta risposta ai problemi che l'avvertenza portava. Probabilmente se questa cosa fosse stata fatta alla luce del sole, però voi avreste giustamente cercato di frenarlo, ed ecco perché è stato fatto di notte, cioè è stato fatto in questo modo per evitare un confronto con sicuramente di fronte a un'azienda che vuole delocalizzare non gli stendiamo certamente i tappetini rossi. Questo mi sembra che sia chiaro ed evidente a tutti. È chiaro ed evidente che se avessimo le attrezzature qua si potevano trovare anche modalità più soft per trovare delle soluzioni, cosa che oggi davanti al fatto compiuto non si possono trovare. Ma quali potevano essere queste soluzioni, Piazzolla? Modalità anche più cadenzate nel tempo per trovare delle soluzioni. Qui il 26 di agosto c'è un trasferimento più graduale, lei dice. Sì, o comunque con delle modalità molto più soft che avevano un impatto un po' meno impattante di quelle che possono avere le modalità di oggi. Cioè, altre aziende purtroppo anche a Modena ne sono state chiuse, si sono trovate facendo degli accordi sindacali, le modalità che hanno trovato soddisfazione per tutte le parti. Va bene. Grazie a Cesare Piazzolla, grazie. Sindacalista della FIOM, segretario della FIOM di Modena, per questa vicenda della Firem sparita praticamente dopo Ferragosto. C'è anche un'interrogazione parlamentare, tra l'altro di un parlamentare del Movimento 5 Stelle, Michele Dell'Orco, che voglio sapere, ha scritto, cosa hanno fatto e che intenzioni hanno l'amministrazione locale del PD e il vice ministro al lavoro modenese Guerra. Staremo a vedere. Noi cercheremo anche di parlare con Pedroni, il titolare di questa azienda, se ci sente. Magari noi siamo ancora intenzionati a fare l'intervista. 800 24 00 24. Luigi da Brescia, buonasera. Buonasera. Prego. Ascolti, volevo intervenire sulla questione di Berlusconi, un passo indietro, un passo in avanti. A mio parere un personaggio politico, per essere degno di questo nome, dovrebbe prestare il suo servizio al paese per un certo numero di tempo, di anni, e poi indipendentemente da, dai magistrati o meno, dovrebbe andare semplicemente a casa. Se ci fosse una regola base come questa, non avremmo più i problemi che abbiamo. Però voglio dire anche una cosa a difesa di Berlusconi, che personalmente non ho mai votato. La dica, perché sennò stasera tutto è a senso unico, poi non c'è gusto. Sennò... Donato, prego. Cioè, il signor Silvio non è mai stato messo nella condizione di poterlo fare il passo indietro, perché non solo non poteva fare il passo indietro, se avesse solamente rallentato la corsa, la magistratura, su evidente mandato della sinistra, che non è riuscita a vincere con i voti, se lo sbranava. Io la invito questa sera a farsi un giretto attorno a Brescia, a vedere quante ragazze minorenni ci sono che si purtroppo prostituiscono. Quante va bene, questo non ho capito bene cosa c'entra, Luigi, le ragazze che si prostituiscono, che c'entra questo? Vuol dire che il nuovo processo che arriverà al signor Silvio dovrebbe per giustizia essere esteso almeno, solo qua a Brescia, almeno altre 1000 persone. Cioè lei dice che di cose da illegali in Italia ce ne sono tante, quindi non solo quella di Berlusconi. Non so, le dico nel mio settore, nel mio mestiere, nel mio lavoro, io vedo delle cose allucinanti. And now, the good news! A Trento, in pochi mesi, sono stati risparmiati 400.000 euro sui rimborsi spese chilometrici dei dipendenti pubblici. Tutto merito del progetto di Car Sharing, che mette in condivisione 44 autovetture per gli spostamenti dei dipendenti pubblici. La ricetta è semplice: aggiungi un posto in macchina! (800) 24 00 24 18 20 e 30 è l'orario, si può fare l'attualità anche d'estate con i vostri interventi in diretta, le nostre good news, la bella storia con cui ci lasciamo alle 20 e 30. Alessio Maurizi in studio, se volete interagire con me il mio account su Twitter è @AleMaurizzi, quello del programma è si può fare 24. Abbiamo Carlo Gabardini? Buonasera. Ci sono, mio invece è @ Carlo Gabardini così, su Twitter. Così, arrivi subito, cioè senza neanche le presentazioni, senza neanche dire buonasera. Esatto. No, volevo dire buonasera a tutti, che mi spiace moltissimo di non essere lì e che purtroppo ho festeggiato il 15 d'agosto con mia mamma non si è fatta trovare, mi hanno caricato su un camion e mi sono ritrovato in Polonia, quindi in questo momento sono in Polonia. Ah, hai sentito il programma, questo ci fa piacere e ti fa onore, perché tu sei sul set del film Il Pretore. Esatto, sono in Giulio Base, in quel di Luino. Ecco, tra l'altro, a proposito, Carlo, visto che state girando Il Pretore, ce l'avete voi un'idea su questa storia della grazia? Grazia sì o grazia no? Cioè, se ne parla lì, visto che è un film che parla di un pretore, quindi parla di giustizia. Assolutamente, però direi che non posso fare riferimenti perché mi sembrerebbero tutti sicuramente sbagliati, offensivi, perché comunque è Il Pretore che si svolge, diciamo, durante il pieno fascismo, e quindi ci sono più gerarchi fascisti che altro, e non vorrei mai che qualcuno del PDL poi pensasse che questo in realtà sia tutto un modo per cercare di dire delle cose su di loro. Perché quelli del PDL? Semplicemente perché sono di destra, molto semplicemente, non era una battuta politica. Ma lì si parla di politica su questo set del Pretore o si parla di calcio? No, in questo momento di calcio. No, perché stiamo cercando di sconfiggere anche la pioggia, quindi... direi che parliamo pochissimo di politica. Niente, io speravo che più di cinema. Speravo che su questo ci poteste dire qualcosa, sull'incandidabilità, per esempio. Invece neanche voi avete un'idea su quello che bisogna fare. Ti ribadisco che noi ci stiamo occupando, diciamo, di Mussolini, quindi... C'è di tutt'altro. In questo momento. Esatto, tutt'altro. Beh, non è che vi invidio molto se vi occupate di Mussolini. 800 24 00 24, cari ascoltatori, per intervenire in diretta. Carlo, resti con noi per qualche minuto finché non ti chiamano a girare qualche scena, forse è questo lo scenario. Molto volentieri. Titoli del TG3. Berlusconi su Facebook: non mollo, resto io il capo del centrodestra. Cresce il pressing del PDL su agibilità politica dell'ex premier e legge elettorale. Il PD conferma: non ci sono scorciatoie. Ma è polemica interna sul documento congressuale Pro Letta. Il ministro Zanonato, ospite al TG3. La crisi affossa il distretto del mobile. Tra Puglia e Basilicata a rischio il posto per 2000 operai e tante fabbriche tengono solo grazie al lavoro nero. Agguato mortale in Sinai, uccisi 25 poliziotti. Mubarak forse presto libero. Le devastazioni nel Museo di Antichità Egizia di Minia. Scomparsi a Roma due gemellini di 6 anni, figli di immigrati rumeni. Giocavano in strada mentre i genitori erano a messa. Sospetti su un uomo che frequenta la chiesa. Muore un migrante marocchino nel CIE di Isola Capo Rizzuto in Calabria. Scoppia la rivolta. Il centro, devastato, è stato chiuso e dichiarato inagibile. È chiusa per un turno la curva della Lazio. Cori razzisti ieri sera contro i giocatori di colore della Juventus nella partita della Supercoppa vinta dai bianconeri. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Non vi è dubbio che ha una posizione pregiudizialmente di chiusura politica. Prima ancora di valutare le nostre osservazioni, non potrebbe conseguire appunto un atteggiamento di rottura politica, perché la convivenza, devo dire, sarebbe estremamente non praticabile. Però prima di lasciarmi, dimmi almeno il perché. Devo dire che questa fretta da un lato è apprezzabile, dall'altro lato vogliamo capire cosa c'è dietro, perché non mi pare che vi siano intese vicine su nuovi modelli. Trovare le intese sulla legge elettorale è una cosa complessa e delicata e merita approfondimenti e buona volontà. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. E allora io penso che se dobbiamo parlarci il linguaggio della verità, dobbiamo dire che adesso abbiamo una grande occasione, e da qui, visto che siamo alla ripresa, la procedura di urgenza che la Camera dei Deputati ha dato perché dal 1 settembre si cominci in commissione a discutere con urgenza il cambiamento, a mio avviso, più urgente che ci sia. Il cambiamento della legge elettorale, cambiare una legge elettorale che così com'è non funziona, una legge elettorale che consenta quella nuova che a ottobre, io penso, la Camera dovrà approvare, che consenta a ognuno di noi di scegliere i propri rappresentanti e quindi consenta al cittadino arbitro, al cittadino di tornare arbitro. Se mi vuoi lasciare, prove di litigio tra il PD e il PDL. Oggi Schifani dal meeting di Rimini ha detto che si aspettavano qualcosa di più dalle parole di Napolitano, qualche cosa di più per Berlusconi, per la sua agibilità politica. Tra l'altro, grazie a sì o grazie a no, lo chiediamo anche a voi ascoltatori all'800 24 00 24, e sull'incandidabilità andrà votata così secca secca come dice il Partito Democratico, oppure ci deve essere un supplemento di indagine di approfondimento del Parlamento in virtù del ruolo di Berlusconi, che è quello che chiede il PDL. Poi dice Schifani: cosa c'è dietro questa fretta per cambiare la legge elettorale? Sarà forse per questo, perché l'ETA vede accorciarsi la durata del suo esecutivo, allora dice: beh, facciamo la legge elettorale, poi liberi tutti. Giachetti, l'onorevole Giachetti del PD ai nostri microfoni, però quello che si era ha fatto lo sciopero della fame per la legge elettorale, perché lui la vuole fortissimamente, dice: si va verso una riformicchio, verso una riformetta, niente che possa garantire una riforma vera e quindi anche una governabilità, e dare ai cittadini la possibilità di scegliere gli eletti, come è stato detto insomma mille volte, perché sapete che con questa legge le liste sono bloccate. Giachetti ha detto questo, si va verso una riformicchia. Va bene, cosa abbiamo? Abbiamo la Lega, è tornato Bossi che ha commentato negativamente la candidatura di Tosi alla guida del centrodestra. Tosi, che saputo si vuole candidare, e lui, Bossi, dice: preferisco Marina Berlusconi addirittura. Sentiamo. Se alle primarie del centrodestra si dovesse scegliere fra Tosi e Marina, chi sceglierebbe? Marina. Che domanda, che... Ma tutti avrebbero risposto così, dai. Ma se vuoi andare... Chi è che ha commentato così? Uno che era lì intorno, tutti avrebbero risposto così, perché conoscono Bossi, che ce l'ha su Contosi, ed è Bossi un berlusconiano da sempre, della prima ora, però poi questa ipotesi di Marina, tra l'altro, sembra che non ci sia neanche più. Salvini, a proposito degli sbarchi e di qualcos'altro, sentiamo. Napolitano, la Boldrini, la Chienge sono sempre molto attenti quando si aiuta qualcuno che arriva da molto lontano. Sotto questo tendone c'è tanta gente che ha bisogno, magari fa meno chic aiutare qualcuno che è di Bergamo piuttosto che qualcuno che arriva dall'Africa. Però io sono pagato per aiutare prima chi ha bisogno a Bergamo e poi per aiutare chi arriva dall'Africa se riesco. Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché. Però il momento del nostro punto di vista strambo, ogni sera a quest'ora vi portiamo un punto di vista così diverso da quello che avete già sentito dai commenti dei politici, degli opinionisti sui temi di maggiore attualità, punto di vista che però ci può dire qualcosa sulla vita che stiamo vivendo, su dove stiamo andando, che cosa stiamo facendo. Stasera abbiamo riconvocato, perché l'avevamo già sentita nel programma Si può fare nel weekend, Stefania Rossini, che è autrice del manuale Vivere in 5 con 5 euro al giorno, cioè vivere con un euro al giorno. Stefania, buonasera. Buonasera, salve. Ben ritrovata. Grazie. Come si fa a vivere con un euro al giorno? Diciamo che il titolo non l'ho scelto io e mi ha creato solo grandissimi problemi, l'ha scelto solo la casa editrice ed è marketing, si chiama solo marketing. La mia vita adesso è parte subito la polemica con la casa editrice, Stefania. No, assolutamente, io ho un ottimo rapporto con la mia casa editrice, abbiamo appena pubblicato un altro libro, Cucinare guadagnando in soldi e in saluti. Però si sa che i titoli sono un po' a volte un po' così tiracchiati per le orecchie, non è proprio un euro al giorno. Mi piace pensare, anche se a volte non è così, che la gente vede oltre, che la gente ha mente pensante e vuole andare oltre semplicemente un titolo oppure quattro righe. Purtroppo non è così al 100%, infatti in Italia siamo messi malissimo per questo, però alla fine la mia vita è semplicemente, ho riscoperto i valori dei nostri nonni, del dopoguerra, quindi autoprodursi in casa, io sono una mamma autarchica al 100%, ci facciamo quasi tutto in casa noi, accendiamo il fuoco a legna fuori per far bollire la passata di pomodoro. Anche d'estate? Ah beh, fuori però, fuori. Sì, è fuori, fuori. Perché adesso è stagione della passata di pomodoro, tra un po' si fa, no? In questi settimane d'agosto. Io ne ho già fatti 200 vasetti, quindi è proprio la stagione. Io ho aperto un blog, Naturalmente Stefi, dove condivido con naturalità, con semplicità la mia quotidianità, quindi le ricette per farsi il sapone, per farsi le creme, per farsi per cucinare con poco denaro, ma con salute comunque. E la mia vita è semplicemente, ho riscoperto i valori di una volta, non è una vita strana, non è una vita particolare, è semplicemente una vita normale, nella anormalità di questo nostro 2013. Però Stefania, visto che un euro al giorno è un titolo sbagliato, cioè non corrisponde alla verità, è un titolo forzato, quanto effettivamente spendete per vivere? Così per dare un'idea a chi ci ascolta, perché poi è importante, no? Ci hanno preso in giro, non era un euro, ma in realtà era, e quanto è? Io non faccio conti quanto è una cosa molto privata, familiare, quindi non lo dirò mai, però insomma è poco, nel senso che se uno la nostra vita non è incentrata al soldo, purtroppo la quotidianità è sbagliata e siamo arrivati in Italia per questo, perché abbiamo dato troppo valore al denaro. Il nostro denaro noi non giriamo intorno al denaro, la nostra vita. Ma come fate a pagare le bollette, per esempio, senza il denaro? Purtroppo per pagare le bollette c'è lo schiavo del sistema di famiglia, che è mio marito, purtroppo, che fa l'operaio. Ho capito qual è il trucco di Stefania, cioè lei fa le torte e il marito si deve occupare di pagare le bollette, non si sa come. Purtroppo sì, lui lavora, ci mancherebbe, siamo schiavi di questo sistema Italia, siamo schiavi di questi politici ladri, e quindi noi dobbiamo pagare queste tasse, dobbiamo pagare la scuola che chiamano statale, che chiamano d'obbligo, ma è carissima, quindi mio marito lavora solo per queste cose qua, le altre cose cerchiamo di barattare con altre mamme, barattare con altre famiglie con mente pensante come la nostra famiglia, cerchiamo di dare una svolta a questa società e a questa realtà. Cioè, soprattutto una svolta alla vostra vita, perché è chiaro che la vostra vita viaggia a un ritmo diverso, no? Perché facendo tutte queste cose che fate in casa, insomma, voglio dire, dalla passata di pomodoro a, immagino, i saponi, i detersivi, un sacco di cose. Fra l'altro c'è anche tempo per stare insieme con la famiglia, questo magari, visto che si dice sempre che non c'è mai il tempo per stare con la famiglia, voi questo tempo ve lo create. Sì, assolutamente, io ho per varie circostanze della mia vita ho dovuto perdere il lavoro e quindi mi sono dedicata totalmente alla mia famiglia. Io sono a disposizione, tra virgolette, della mia famiglia e sono felice perché comunque riesco a godermi la mia famiglia, a godermi i miei bambini, a vedermeli crescere. Gli cucino io le cose del nostro orto, che ci seminiamo noi, che ci autoproduciamo noi le sementi. È proprio una riscoperta di valori antichi e tutto con grande gioia, perché comunque sono veramente valori, insomma, noi non andiamo ad acquistare. E quali sono le concessioni che invece fate, così, diciamo, tra virgolette, alla modernità, a, non lo so, i videogiochi per i bambini in casa ci sono? No. Se ci sono i videogiochi, abbiamo il computer, abbiamo tutto. Abbiamo io sono per il movimento decrescita felice, cioè non abusare della modernità. Meno male che esistono i farmaci, meno male che esiste la tecnologia, ma utilizziamola con sobrietà e quando necessaria, e utilizziamola bene. Anch'io sono per l'antibiotico, ma solo ed esclusivamente quando serve. Anch'io sono per il computer, però me lo utilizzo per cercare informazione e condividere, non lo utilizzo per fare i giochini, non lo utilizzo per perdere tempo, perché ho altro da fare. Carlo Gabardini, sembra quasi essere tornati agli anni 30. Hai sentito come fa Stefania Rossini a vivere? Assolutamente. A parte che dire io sono autarchica il giorno del compleanno di Nanni Moretti mi sembra veramente perfetto, sembrava quasi studiata. È una citazione, non so se Stefania Rossini ha fatto apposta, però era... No. Sapevo neanche, quasi non so nemmeno chi è Nanni Moretti. No, quindi, non sa chi era Nanni Moretti. Non sapevo nulla di questa cosa. Va bene spendere un euro al giorno, però... No, ma Stefania era una battuta, non era una cosa... Dico, giornale così, aprire un sito online di informazione... Non ho capito, cos'è che ha detto Gabardini? Dicevo che sapere che erano i Moretti, però si può anche se si spende solo un euro al giorno, questo che dicevo. Sì, ma era solo una battuta quella di Stefania, credo. Stefania, cosa fate stasera per cena, per esempio? Qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è nelle altre famiglie, o no? Noi abbiamo fatto la passata di pomodoro, abbiamo fatto la pasta con la passata di pomodoro. Abbiamo fatto la torta fatta in casa, facciamo il pane con la pasta madre e abbiamo mangiato queste cose, le cose che ci ha dato l'orto e quello che ci siamo cucinati, acquistiamo. Perché voi avete la casa con l'orto, questo è un vantaggio, perché se uno vuole fare questa scelta di vita, per esempio, no? Lei ha aperto questo blog, naturalmente Stefi, per dare dei consigli su come fare, ma se uno non ha la casa con l'orto, come fa? Beh, come fa? Io i consigli che do io e comunque la vita che faccio io la si può fare tranquillamente in centro Milano, in centro Roma, ovviamente senza l'orto. Il sapone lo si può fare in casa, le creme, insomma, a parte l'orto, io faccio tutto il resto nella mia cucina. E ci sono tantissime mamme che abitano in centro città e che lavorano e fanno quello che faccio io. Ovviamente io mi dedico al 100% a questa vita. Il sapone lo puoi fare una volta l'anno, la crema lo fai due volte l'anno. Però non ci ha voluto dire alla fine quanto risparmiate. Vabbè, è un fatto privato, personale. Noi risparmiamo tantissimo. Prima per la stessa tipologia di spesa spendevamo sui 500-600 euro. Adesso intorno ai 100-130 euro al massimo riusciamo a cavarcela al mese. Al mese per l'abbigliamento, per il cibo, per i detersivi. Vabbè, insomma, adesso un'idea del risparmio ce l'abbiamo. And now the good news. In Sicilia, a Niceni, nella zona della Movida, la sicurezza è garantita dai vigili in pensione e dai carabinieri in congedo. Sono una trentina e hanno deciso di impegnare volontariamente il proprio weekend per prevenire risse, danneggiamenti e smercio di droga. Semper fidelis, mai con le mani in mano. (800) 24 00 24, tra poco riprendiamo con i vostri interventi. Gabardini, ci sei? Sì, signori, sono qui, presente. Ma ci fai parlare prima o poi con la Caprioglio? Che è non tua è moglie nel set. Film, non è sul set, ma non c'è mai, ci non sei solo tu set. Su questo set. Oggi ho tutte scene dove non c'è mia moglie. Ah, ecco. Questa di Nanni Moretti però è stata bella, eh? Cioè, solo per questo valeva la pena di chiamarti e te di stare in attesa per un po'. Questa io sono un autarchico, perché oggi è il compleanno del sessantesimo, il grande cineasta, dello splendido sessantenne Nanni Moretti, per citare un altro film. Però Stefania Rossini è rimasta un po' interdetta, non so se non lo conosceva davvero o ha fatto finta, perché magari uno dice no, ma io non lo conosco, per fare un po'. Ma magari si sente quella... male la mia voce ed è arrivato, sì, Birra Moretti, non lo so. Va bene, andiamo con qualche ascoltatore. Elio dalla provincia di Udine, buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego. Pronto? Ecco qua. Io di la verità avevo chiamato quando avevo sentito parlare di giudici e adesso mi sembra di essere quasi fuori quello che ho sentito. Elio, la sentiamo male, resti un attimo in attesa, vediamo se lo recuperiamo. Giovanni da Milano, buonasera. Buonasera. Buonasera. Prego. Guardi, io volevo intervenire in merito al discorso di quella ditta che pare nel corso del weekend di Ferragosto si è trasferita. La Firem di Formigine, si dice Formigine o Formigine, in provincia di Modena, sì. Ecco, chiaramente adesso l'evento specifico in sé lo lascio commentare, giudicare a chi avrà il diritto e il dovere di fare ciò. Però un po' di mea culpa da parte del sindacato va anche fatta, perché sì, certo, non aiutano in nessun modo chi vuol fare impresa in Italia, ripeto, non è il caso specifico, ma se un imprenditore prende scappa qualche motivo ci sarà, sicuramente a che fare con la burocrazia, col cuneo fiscale, con le tassazioni e con quant'altro, ma anche con un sindacato particolarmente ostico che dipende soltanto che il posto di lavoro ce l'ha già, disinteressandosi del 40% dei giovani disoccupati, che viceversa secondo me dovrebbero veramente fare la voce più grossa e farsi ascoltare di più. Vabbè, questo tema ci sta tutto nella questione di cui abbiamo parlato. Quello che colpiva era proprio il modo, no, in cui questa cosa è successa a Formigine, cioè la Firem che è sparita nel giro di qualche giorno, così all'improvviso, senza dire nulla, senza comunicazioni ufficiali, senza aprire nessuna vertenza, ma insomma staremo a vedere. Grazie Giovanni, andiamo a Motarze che ci chiama da Roma. Sì, buonasera. Si pronuncia così, Motarze. Bravo, Motarze. Esatto. Buonasera, sì, volevo parlare a proposito di Fratelli Musulmani. Sì. Senta, allora, a proposito dell'Egitto, perché avevo chiesto ai cittadini egiziani che stanno in Italia di spiegarci quello che accade in Egitto, perché non ci capiamo nulla, o almeno esatto, ci capiamo poco. Sì. Allora, queste qui sono comunità religiose, si occupano anche di politica, di economia, però hanno l'idea molto estremista. Molto... Ma chi? I Fratelli Musulmani? Sì, esatto. Sì. Sono molto onesti, però hanno l'idea molto strana, non è compatibile con il tempo nel quale noi viviamo. Capito? A lei non piacciono questi Fratelli Musulmani, in sostanza. Non è che non le piace, io ho degli amici, sì, e uno di quelli era uno studente molto forte quando eravamo all'università, ma parecchi anni fa. Ma l'esercito quindi fa bene però non si dovrebbe sparare sulla gente, questo mai, quando lei sta di fronte uno armato, allora lei che cosa fa? Cioè sono armati loro, quindi l'esercito, ma l'esercito che cosa difende? Abbiamo visto dei video in cui non sono armati per niente. No. Gabardini che ci sono dei video. In effetti c'è un video nel quale si vede un uomo in testa a un corteo con le mani alzate, che viene colpito con un'arma da fuoco. Questi sono i cittadini semplici, non fanno parte né i Fratelli Musulmani né l'esercito, capito? Però poi vengono accoppati anche loro. Il problema è che si sta sparando sulla folla. Esatto. Purtroppo succede così, si scappa anche il morto. Ma lei da dove viene, Motarze? Da che città? Il morto, lì ne ammazzano a decine tutti i giorni. Non ti appassionare troppo, Gabardini, un attimo. Motarze, lei da che città viene? Dal Cairo. Dal Cairo. E quanto tempo è che non torna? Da parecchio, dal 90. Dal 90, quindi ha un po' perso di vista forse anche la situazione da qualche per certi aspetti, insomma. Però la sento quotidianamente, che lì c'è la mia famiglia, c'è i genitori, i fratelli, va bene, abbiamo iniziato così questo esperimento di cercare di capire cosa accade in Egitto grazie ai cittadini egiziani che stanno in Italia e magari ci aiutano a capire. Ci ha raggiunto Roberto Formigoni, buonasera. Buonasera a voi. Senatore del PDL, Abbiamo letto in questi giorni, insomma, di questa sua mancata presenza, però lei è stato, ci è andato, applaudito, ma non parteciperà a dibattiti ufficiali, al meeting di Rimini. C'è qualche un po' di insoddisfazione da parte sua su questo o no? Ma guardi, il meeting è sempre stato molto più profondo di quello che appariva all'esterno, molto più interessante dei dibattiti, delle cose che si dicono, e vedere questo popolo straordinario di giovani, di adulti, di genitori, di famiglie che riempiono i quartieri della Fiera di Rimini, visitano delle mostre di straordinario interesse, didattiche, scientifiche, eccetera, e non c'è un mozzicone che caschi per terra, non c'è uno che alzi. Ma perché non fumano o perché le buttano? No, perché sanno tenere in ordine, sono appassionati a quest'opera comune del meeting, che molti di loro hanno costruito, perché lei sa che la forza del meeting sono 3.000 volontari, sì, che tutta la settimana lavorano anche pagandosi pranzi con i loro risparmi. Quindi questo è lo spettacolo a cui non ho voluto. Cioè, lei dice, ecco, mancare. Al di là di tutto, chi se ne frega se Formigoni partecipa al dibattito X o Y, l'importante è il movimento. Però lei qualche frase si è lasciata scappare, no? Un po' di... Una risposta, ma l'incidente chiuso, basta, quel che ho detto, punto e chiuso, adesso mi sto godendo, ripeto, questo meeting straordinario. Che cos'è che aveva detto, giusto per ricordarcelo anche a noi? Sa che non me lo ricordo più neanche io, ma fra l'altro voglio anche perché dire era stato detto che lei non era invitato ai dibattiti ufficiali perché non essendo più presidente della regione non aveva più ruolo, ecco, sta già ridendo. Sì, perché... voglio dire, ma io il meeting l'ho fondato insieme a Nicola Sanese, insieme a Sante Bagnoli, eravamo in 3 o 4 nel 1980, non l'ho fondato io, con loro, con i riminesi, è stata un'esperienza straordinaria e ho sempre partecipato al meeting, tutti lo sanno, non perché fossi presidente di Regione Lombardia, ma per altri motivi. Punto chiuso, oggi sono qui per gli stessi motivi, fra l'altro sto tenendo tutta una serie di incontri sul tema della politica con tanta gente vecchia e nuova interessata a riprendere a fare politica, guardi, in un periodo in cui la politica ha raggiunto il livello di gradimento più basso possibile, grazie al cielo troviamo ancora dei giovani e degli adulti che invece vogliono fare una politica concepita come servizio al bene comune della gente. Ma questi applausi a Letta sono stati molti oppure è nella norma quando c'è un capo di governo, perché si sa che al meeting di Comune Liberazione si tende anche a, non dico a gratificare i potenti di turno, però avere un feeling con chi ha la responsabilità di governo, questo sì. Diciamo che c'è un applauso comunque costante per tutti, perché sono persone che accettano di venire a confrontarsi con il tema del meeting, ogni anno il meeting ha un tema, quindi non improvvisano discorsi, non portano analisi in politichese, ma cercano. E poi però ieri Letta si è anche meritato una serie di applausi, quando per esempio ha ricordato la logica dell'incontro, che è sempre superiore alla logica del conflitto, e ha detto soltanto chi è incerto sulla propria identità ha paura di confrontarsi con identità altrui. Però no, è uno dei leitmotiv della nostra storia di Comunione e Liberazione del Movimento Popolare. Però non si capisce mai a chi sono rivolte queste cose, perché è chiaro il discorso sull'incontro anziché il conflitto. Però in questo momento, per esempio, sembra quasi che l'abbia rivolta a, non lo so, a Berlusconi, quando dice che non devono prevalere interessi particolari. Adesso Berlusconi ha un suo problema particolare, per quanto generale, però suo. Però se lo chiede a lei, lei mi dirà che non è così. No, io mi auguro che Letta l'abbia rivolto a tutti, perché in questo momento le tentazioni di far cadere il governo sono presenti da una parte e dall'altra. Io gli ho detto in privato dopo l'incontro: caro Enrico, bisogna che anche il tuo partito si faccia un esame di coscienza, che tu stesso come capi del governo ti senta responsabilizzato di fronte a questo grande problema inedito, che il capo del secondo partito della tua maggioranza, nonché leader incontrastato di 10 milioni di italiani, si è messo fuori gioco politico. È chiaro che è una riflessione che dobbiamo compiere tutti, nessuno di noi chiede che non sia applicata la legge, però siamo in presenza di un fatto assolutamente nuovo che rischia di minare, in questo momento molto delicato in cui l'Italia ha bisogno di un governo, l'Italia ha bisogno di far ripartire l'economia, rischia di minare una collaborazione strana quanto volete, ma che sta funzionando, perché questo governo comunque qualche risultato lo sta portando a casa. Quindi mi auguro che Letta sia stato equanime, abbia pensato agli uni e agli altri. Noi lavoriamo perché il PDL continui a sostenere il governo, lui deve fare in modo che i comportamenti del PD aiutino veramente non solo la sopravvivenza, ma la continuazione di questo governo. Però quando Schifani dice oggi, lo ha detto in maniera più soft, Santanchè l'ha detto in maniera più netta, se ci sarà un voto secco del PD direttamente senza un supplemento di indagine sulla questione di Berlusconi. Non si capisce questo supplemento di indagine però se è un modo per prendere tempo oppure se alla fine voi auspicate uno sbocco diverso, perché il PD su questo ha sempre detto che voterà per la decadenza. Ma allora guardi, il tema è complesso perché si tratta della prima volta in cui verrebbe applicata la famosa legge Severino. La legge Severino parla di incandidabilità per le persone che abbiano subito un certo tipo di condanna. Il PD lo legge come decadenza. No, un momento, l'incandidabilità vuol dire che quando arrivano le elezioni quelle persone lì non possono candidarsi al Parlamento. Ma non possiamo leggere come decadenza di una persona che è stata eletta regolarmente a febbraio. È un primo plesso di problemi sui quali invitiamo a ragionare. Secondo plesso di problemi che anche molti costituzionalisti hanno riconosciuto. La legge verrebbe applicata retroattivamente. Qualcuno dice no, non è retroattivamente perché prende semplicemente atto di uno Stato. Altri dicono invece c'è il dubbio che sia retroattiva. Quindi per esempio noi diciamo attenzione ad applicare per la prima volta, quindi in un modo che farà da precedente per altri casi, una legge in maniera sbagliata. Per questo diciamo studiamola bene fino in fondo. Se la Commissione ha bisogno di una settimana in più, diamo questa settimana. Se c'è bisogno di sentire il parere della Corte Costituzionale, sentiamolo, perché è in discussione una persona come Berlusconi che ha quelle caratteristiche di leader che ricordavo prima, ma è anche il primo caso in cui una legge viene applicata e non si può applicarla in maniera sbagliata. Ma se al termine di questa consultazione, di questo supplemento, diciamo, di approfondimento, il Partito Democratico confermasse il voto per la decadenza di Berlusconi, quale potrebbe essere, quale sarà la conseguenza? Cioè sarà comunque negativa per nei confronti del governo Letta? Noi chiediamo che ci sia questo esame non ritardato, ma approfondito del tempo necessario per essere certi di applicare una legge che sia costituzionale, della quale sia verificata la costituzionalità e che sia applicata in maniera corretta. Dopo quello che succederà dopo, il primo a dover decidere sarà senz'altro il Presidente Berlusconi, perché in questo momento una cosa è chiara, il PD è unito con un solo uomo attorno a Berlusconi nelle diverse sensibilità e nei diversi linguaggi, però siamo uniti attorno a lui. Oggi abbiamo chiarito, diversi esponenti nostri hanno detto con chiarezza, non ci saranno dimissioni in massa dei parlamentari, potrebbero essere le dimissioni dei ministri, tutto dipenderà dal modo con cui si arriverà. Appunto, noi vogliamo che sia risolto il problema dell'agibilità politica di Berlusconi. Ma le dimissioni dei ministri equivarrebbero ad un sostegno esterno al governo? È difficile in questo momento ragionare. Noi diciamo, chiediamo dal PD questo scatto di responsabilità, esaminare la vicenda nella sua complessità perché riguarda una persona del peso di Berlusconi, senza preferenzialismi, ma anche tenendo conto che la politica deve sapere dare una risposta alle situazioni nuove che si sono create. Lo stesso sforzo noi lo chiediamo al Presidente Napolitano, abbiamo apprezzato la sua lettera, ma crediamo che Napolitano non possa limitarsi a questa lettera, anche egli debba ulteriormente lavorare per trovare una soluzione che sia compatibile con il quadro costituzionale che abbiamo, ma che rispetti anche le esigenze della politica, che sono quelle di non avere dei partiti improvvisamente privati dei loro leader. Senta, per tornare un attimo a Letta, ho letto male o lei ha detto che è il più cielino del Presidente del Consiglio dopo Andreotti? No, non ho detto questo, ho detto semplicemente, Letta mi ha domandato, è un cristiano, dico non ha mai fatto velo del suo essere cristiano, dopodiché ho anche detto agli elettori cattolici state attenti che molte delle cose dette ieri sono propaganda. Vabbè, questo vale sempre, ma secondo lei tra Letta e Renzi per esempio, che è un altro politico, che non fa mistero di essere cristiano, eccetera, eccetera, chi potrebbe piacere di più al popolo di CL? Ma guardi, il popolo di CL continua a preferire noi che facciamo politica nel popolo della libertà. Dopodiché, comunque, non abbiamo mai obbligato nessuno, sì, evidentemente, né a votare per la DC un tempo né per il popolo della libertà oggi. Solo che noi lavoriamo per mettere in evidenza come i valori più consoni alla dottrina sociale cristiana, la centralità della famiglia, la centralità della persona, il lavoro, l'impresa, eccetera, siano meglio interpretati da una politica di centrodestra che su questi temi ha sempre messo un primato fondamentale. Però è la libera competizione politica, è chiaro che chi da cattolico milita nel centro-sinistra cerca di dirlo. In genere, quando io mi confronto su questi temi con altri cattolici del centro-sinistra esco vincitore io, perché c'è una maggiore coerenza vabbè, tra questo... i valori cristiani e le politiche. Non voglio mettere in discussione questa certezza perché non avrei la facoltà per farlo, però no, a chi invece... No, era una battuta, Formigoni, sì. Alcune politiche che abbiamo fatto in Lombardia di sostegno alla famiglia, di sostegno alla maternità, alla sussidiarietà, sì, la libertà di scelta nei servizi sociali, nel welfare, ecco, ma questo è il bello del confronto politico. Ma a chi, per esempio, laici o non, insomma, non dichiaratamente di ispirazione cattolica, non praticanti italiani, che pensassero, ma alla fine comunque sono tutti democristiani, perché Letta sappiamo che viene dal PP e dal PPE, Alfano la stessa cosa, Formigoni, è vero, siete tutti democristiani alla fine, anche Letta. Stato democristiano, Letta è stato addirittura responsabile dei giovani democristiani, eravamo in un'epoca nella quale non c'era il bipolarismo e quindi dentro il grande partito, dentro il grande corpaccione della Democrazia Cristiana venivano radunate anche sensibilità diverse, poi il bipolarismo ci ha costretto a scegliere, io per i motivi che dicevo prima ho scelto centrodestra, hanno scelto un'altra cosa, ci sono però, voglio dire, ma Democrazia Cristiana se ha governato 50 anni nel modo che ha governato, sempre con il consenso degli italiani, qualche cosa di buono aveva, no? Quindi certamente noi abbiamo un'eredità di quel modo di affrontare le cose, dopodiché facciamo politica nel bipolarismo, io credo. Vabbè, che chiaro, le cose poi sono cambiate, ma anche Renzi secondo lei potrebbe essere, è più giovane, quindi diciamo non c'era, ma ascrivibile alla schiera dei democristiani? Non so se abbia mai militato nella Democrazia Cristiana, certamente è cattolico, però insomma distinguiamo il cattolico dal democristiano, torno a dire, e poi comunque mi permetta di dire… Cioè un po' meno democristiano lui di Letta forse. Attenzione, siamo cattolici, però noi ci proponiamo all'elettorato italiano, che è fatto di cattolici, di laici, di credenti, di non credenti, che è pluralistico nelle sue scelte, e vogliamo che la gente ci voti, non perché siamo cristiani, ma proponiamo delle politiche, siamo credibili nelle politiche che proponiamo e dimostriamo di poterle realizzare. Oggi anche i cattolici votano sulla base della forza, della credibilità del politico che hanno davanti e del partito che hanno davanti. Senta, state discutendo anche della rinascita di Forza Italia in queste ore? Sì. Come lo vede questo percorso? Io sono, come dire, d'accordo, nel senso che il Presidente vuole tornare a Forza Italia, ben venga, questo potrà anche dare nuova spinta, nuovo entusiasmo. Sorrido un po' quando alcuni colleghi del PDL dicono partito leggero, no, noi abbiamo bisogno di un partito che sia strutturato, organizzato, radicato sul territorio, anche perché si è dimostrato che nelle elezioni nazionali con Berlusconi presidente si vince o si pareggia o si perde di un soffio, nelle elezioni locali dove Berlusconi non è presidente è da 3 anni che prendiamo delle scoppole, quindi bisogna mettersi, fare un partito che sia in grado di selezionare la classe dirigente non per cooptazione ma per meritocrazia, di scegliere i migliori, e la formazione della classe dirigente politica avviene nella battaglia politica sul territorio, nel conquistare il consenso dei cittadini, nell'organizzare convegni, incontri, manifestazioni, visite nei luoghi di lavoro, nelle abitazioni, perché bisogna riconquistarsi il consenso dei cittadini, dicevo prima, la politica oggi è un momento bassissimo, vogliamo abdicare? No, noi siamo quelli che crediamo che parlando con la gente eccetera possiamo ancora convincere, comunque vogliamo misurarci in questo agone, ecco perché dicono bentorni Forza Italia, il leader nazionale è Silvio Berlusconi, ma il partito Formigoni lo vuole, perché potrebbe essere questo uno dei motivi per cui si spiega, come stava dicendo anche lei, che il PD ottiene molte vittorie a livello locale, ultimamente sicuramente di più del PDL, però poi a livello nazionale non è così, e questa è la differenza, il PD è un vero partito e il PDL secondo lei dovrebbe seguire questa strada? D'altra parte agli inizi di Forza Italia eravamo, perché agli inizi di Forza Italia abbiamo curato, pur essendo un partito carismatico anche allora, ma abbiamo curato una presenza sul territorio. Io voglio far riflettere tutti i miei colleghi, sì, sulla necessità assoluta di questo. Bisogna curare la gente, alla gente il voto devi andarglielo a chiedere, deve vederti non soltanto ogni 5 anni alle elezioni, neanche una volta all'anno nelle feste comandate, deve vederti presente, deve potersi incazzare, ecco, con ma in te, tutto questo deve poterti però rimproverare. In tutto questo, chiarissimo Formigoni, come si inserisce la questione Marina Berlusconi? Marina Berlusconi sarebbe l'antitesi di un partito come dice lei, però. Allora, Marina Berlusconi ha già escluso più volte in maniera abbastanza forte di potersi candidare e io sono d'accordo con questa scelta, ma voglio dire, ma anche se chiunque si presentasse, l'importante è che appunto si cimenti nella raccolta di voti e nella raccolta di consenso. La successione non può essere in maniera dinastica, è in una maniera che uno si misura con consenso. Noi dinastie le abbiamo avute negli Stati Uniti, pensiamo a Bush padre, Bush figlio, pensiamo a Clinton marito, a Clinton moglie, ma Clinton moglie si è misurata nelle primarie, si è misurata con un colosso come Obama, le ha perse d'un soppio, voglio dire, ecco, questo è nell'agone politico che si vede la preferenza del popolo per uno per l'altro. Finalmente ci metteremo alle spalle il porcellum e quindi non sarà più il capo a selezionare i prescelti, ma dovremo ciascuno di noi tornare a misurarci con il consenso dei cittadini, e il cittadino ha sempre ragione. Quando l'elettore vota, l'elettore ha sempre ragione. Senta Formigoni, poi dobbiamo chiudere, abbiamo pochi secondi, ma la frase di Bossi su Marina Berlusconi, meglio di Tosi come candidato del centrodestra, come la... Ha ragione Bossi, ha perfettamente ragione Bossi, voglio dire, questo mi ha appena detto che Marina però andrebbe bene solo. No, io dico che nel one to one, in un confronto Marina Berlusconi Tosi, vince Marina 6-0, di questo sono convinto, dopodiché vedremo. Va bene. Sarà il popolo a scegliere, bene? And now the good news. I Food Share è una piattaforma online creata da un gruppo di ragazzi di Caltagirone che permette di condividere il cibo e gli alimenti in eccesso con chi ne ha bisogno. I privati, le aziende agricole o la grande distribuzione segnalano un'eccedenza e gli utenti possono recuperarla gratuitamente. Dalla rete alla pancia. .000240024, tra poco riprendiamo con i vostri interventi. Gabardini, ci sei? Sì, signori, sono qui. Sempre in attesa di convocazione sul set del pretore. Esatto. Da solo? Ma non c'è nessuno che ti tiene compagnia, qualche altro attore, voglio dire, va bene la Caprioglio che non c'è, però proprio niente. Sono in un camerino di fortuna, direi a almeno 800 metri dal set. In che senso? Che sono lontano dal set in questo momento, sono... Avevo capito 800, invece 800 metri dal set. No, dal set. Avevamo capito l'altezza, ti immaginavamo penzolante da qualche parte per una scena di pericolosa. Pericolosa, ma non è questo. Perché in realtà io faccio la controfigura in questo film, ovviamente. Va bene, adesso passata la regola d'ingaggio che ti impedisce di fare le interviste con gli ospiti, il nostro stagista opinionista Gabardini, se hai ancora qualche minuto magari con gli ascoltatori puoi dire qualcosa. Spero di sì, nel caso te lo comunicherò. Ti volevo leggere un tweet che mi è arrivato da Manino Max, che dice: Formigoni a Si può fare 24 si autopropone come nuova politica. Ora ci dirà che la nuova auto Fiat del 2014 sarà la Duna. C'è un parallelismo tra la Duna, una sfortunata autovettura Fiat degli anni, non ricordo più, 90 forse. E soprattutto, diciamo, non particolarmente innovativa. Innovativa, ecco. E Formigoni, che certo, però lui non si è proposto lui in quanto tale, devo dire... Oddio, cioè, certo, fa parte di Forza Italia e alle diciamo sue idee. Diciamo che ha detto Marina no, Tosi no, insomma, gli stava scartando tutti finché si arrivava a Formigoni, credo. Però sul partito, secondo me, ha ragione, perché un partito senza partito perde tutte le elezioni locali, che è quello che è successo al PDL recentemente. Quindi io, da questo punto di vista, 1-0 per Formigoni. Va bene, vediamo chi c'è che ci chiama. Gaetano dalla provincia di Salerno. Buonasera, Gaetano. Buonasera Maurizio, buonasera. Prego. Niente, io volevo solo dire una cosa in merito alla delocalizzazione dell'azienda in Polonia. Io sono con gli operai che chiaramente hanno perso il posto di lavoro, è la cosa più grave che può accadere in questo periodo. Loro sono arrabbiati giustamente, però dovrebbero essere arrabbiati oltre che con l'azienda, con il governo italiano che mette le aziende in condizione di non poter più lavorare in questo paese. Ci sono paesi molto più attrattivi, paesi che consentono alle imprese di crescere e di svilupparsi. L'Italia purtroppo non consente più la crescita delle imprese, e questo mi sembra che qualunque governo vada al potere non lo tengono in considerazione. Non si può prendere tutta un'azienda e sperare che questi innovi, che faccia assunzioni e tutto quanto. Bisogna lasciarci qualcosa. Lo Stato è il maggiore azionista di qualsiasi azienda italiana, ma è un azionista soltanto per pigliare dividendi. Quando c'è un aumento di capitale non interviene ad aumentare il capitale, anzi aumenta le tasse e sottrae liquidità alle aziende che potrebbe invece investire e dare anche un aumento in busta paga a tutti i collaboratori e quindi migliorare lo status generale. Va bene, grazie Gaetano, grazie mille. Andiamo a Paolo che ci chiama da Livorno. Buonasera Paolo. Sì, buonasera, innanzitutto grazie per poter dar voce anche a noi che in pratica lavoriamo e basta, dopo 14 anni iniziati, sono 52, sto solo lavorando. Di cosa si occupa lei? Che lavoro fa, se vuole? Facciamo un'autoriparazione a Livorno. E avevo 14 anni, mio padre l'ha fondata nel 52, abbiamo solo lavorato. Dal 52 la nostra attività solo lavora e non chiede altro, chiederebbe solo di essere governata meglio possibile. Però la riflessione che volevo fare è solo qui, a parte il discorso che ha detto quello di prima di Formigoni che propone novità, è dura, però la riflessione mia era sul discorso di Berlusconi, visto che sbandierano tantissimo il fatto che è stato votato da milioni di elettori, probabilmente non considerano il fatto che è stato votato prima di essere comunque un condannato, magari sarebbe giusto anche, visto che sono così sicuri, far cambiare questa legge elettorale famosa che non stanno facendo tutto fuori che quello, riandare alle votazioni e vedere se veramente Berlusconi prende gli stessi voti che ha preso prima, comunque da uomo libero, e adesso è condannato, quindi cioè, era solo una riflessione, cioè, magari si perde questa cosa qui, capire che non è più la stessa persona di quando è stato eletto, credo. Ma poi magari ne prende molti di più. Bravo, non lo so, questo io non lo voglio sapere, però dico, dire che è stato votato da molti elettori era un'altra persona, cioè nel senso era comunque un uomo che adesso dalla giustizia, se ci crediamo nella giustizia, e io sono fra quelli che ci credono, se no è finita. Io sono una persona che, ripeto, solo lavora. Dico, magari è stato condannato, vediamo se il popolo, anche chi l'ha votato, lo rivota, oppure ha un ripensamento perché magari credendo nella giustizia anche dice è stato condannato, quindi per me non è più la persona che era prima. Ecco, solo questo, io dico, solo ecco, questa sbandierare che comunque milioni di elettori hanno votato, probabilmente come dice... Ma secondo lei prenderà più o meno voti? Io spererei meno, sinceramente, d'altronde se no, faccio questo avevamo capito, Paolo. Questo avevamo capito. È perché non condivido, no? È normale. Va bene. Ma a parte che come lui altri, non solo lui, perché comunque siamo governati in maniera abbastanza assurda da diversi anni, quindi credere solo di essere governato da persone che capiscono cosa vuol dire tutti i giorni lavorare e tutti i giorni portare a casa. E secondo lei Berlusconi questo no? Perché molti ascoltatori per esempio ci scrivono, ricordatevi che dà da lavorare a un sacco di gente Berlusconi. Sicuramente, però secondo me non è la persona giusta per governare questo paese. Va bene, grazie Paolo, buona serata. Ma ci mancherebbe altrettanto, buonasera. Orazio da Messina, buonasera. Buonasera, io volevo solo chiedere se sapete chi pagherà i danni delle devastazioni al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, mi pare a un altro in Alta Italia. Credo che Gabardini su questo sia informato, perché mi diceva prima che sa tutto su questo, vero Gabardini? No, scusi Orazio, non ho capito, cioè lei chiede provocatoriamente chi pagherà i danni degli extracomunitari, dove so esattamente? Dove? Io so solo che noi stiamo pagando da 2 anni. Lei si riferisce a dove c'è stata la devastazione? Scusi, Orazio, lei si riferisce a dove ci sono state le devastazioni oggi? Per andare a prendere questa gente in mezzo al mare, quella che Malta non vuole, e prenderci i complimenti dell'Europa e prenderci gli stessi complimenti irridenti, di Malta. Vabbè, sarebbe che giusto che pagasse anche l'Europa, questo sì. Repubblica. Cioè lei vorrebbe che pagasse, Orazio. Orazio, mi ascolti un attimo, Orazio. Prego. Oh, lei vorrebbe che pagasse l'Europa, per esempio? Io sarei d'accordo. No, io vorrei che schierassimo la flotta al limite delle acque territoriali nel canale di Sicilia, assistere questa gente in mare, dagli acqua. Ma come si fa? Ma questo per impedirle dal paese da cui vengono. Questo però pone un sacco di problemi, perché in mezzo al mare non Malta, si sa se... Malta perché lo fa? Ma Malta, no, Malta scusi, ma lei fa? Però adesso non ci paragoniamo, Malta è un piccolo paese, cosa vogliamo che fare come Malta? Noi siamo un paese. Malta è uno sputo sulla carta geografica, mi scusi, allora, i maltesi si arrabbieranno moltissimo. È uno sputo, però... che sia uno sputo sono d'accordo con lei. Con lei. Cioè noi dobbiamo confrontarci con la Francia, con le cose, non con Malta. Ma il ministro congolese. Sì. Cosa c'entra Chienga adesso? C'entra, e come? Vuole tutto? Vuole tutto. Di una straniera ci siamo liberati, una straniera al ministero, vediamo quando ci liberiamo di quest'altra. E la pelle, il colore della pelle non c'entra per niente. Cioè, c'entrano gli stranieri, lei non ce l'ha con i ministri stranieri. Per me Cheng e idem erano la stessa cosa. Cioè cosa? Sono due stranieri che non dovrebbero stare al ministero. Ah. Vabbè, ma la idem però ha vinto tante medaglie d'oro per l'Italia, l'italiana, cioè da no, questo punto di vista. È sbagliato. Comunque, a prescindere, Orazio, lei ce l'ha proprio su con... Sbagliato le medaglie d'oro che ha vinto per l'Italia, sbagliato... Che facciamo, le restituiamo alla Germania, vabbè. Orazio, sarebbe un peccato però, perché quelle medaglie invece ce le siamo godute tutti e sono state anche divertenti, però questo è il suo punto di vista, che dobbiamo fare, Orazio? Sono tedesche, non sono italiane. Credo che ci sia anche la Fiona May, che sia inglese, che ha vinto qualcosa per l'Italia, ma nemmeno quelle sono italiane, sono medaglie inglesi. Va bene, Orazio, abbiamo capito. Che dire, buona serata, grazie Orazio, non ne vuole sapere proprio di gente straniera o naturalizzato o cose di questo genere. Orazio, ma Balotelli per esempio, perché il calcio poi, magari c'è ancora Orazio? Sì, sono qua. Balotelli le piace o neanche lui vorrebbe? Balotelli è una persona che è venuta in Italia, è stato adottato quando era bambino, è un italiano, non ho niente contro di lui. Ah, Balotelli sì, perché è stato adottato che era piccolo. Sì. È stato adottato Balotelli. Beh, questa è una distinzione. Ma se uno prende la nazionalità di un posto, prende la nazionalità, che c'entra che uno è stato adottato e l'altro no? Perché Orazio Gabardino, Orazio ne fa una questione non di documenti di nazionalità, ma di origini proprio, come dire, di origini quasi sanguigne, cioè Balotelli, allora, era bambino che era qua e la idem invece Balotelli no. È uguale. No, non è uguale, la idem è una che ha avuto la cittadinanza italiana per matrimonio, si dovrebbe vergognare intanto di aver gareggiato per l'Italia, perché ha rinnegato la Germania. Questo così come la May, vale meno di adozione, che ha gareggiato per l'Italia ed è inglese, capisce? È tutto sbagliato, guardi. Va bene, Orazio. Gabardini, vuoi chiusare qualcosa su questo? Ti sentivo appassionato. No, mi chiedevo come mai il matrimonio valesse meno dell'adozione, così era interessante come classifica, basta sapere qual è la classifica e poi uno si adegua. Perché il matrimonio c'è una grande differenza viene dopo il matrimonio, a 30 anni in Italia o venire in Italia ad essere adottati, no ius soli che vuole la Cheng, quello che se lo faccio in Congo, lo ius soli, è un'altra cosa, capisce? Va bene, Orazio. No, capisco, grazie. Sì, non condivido per niente. Il bello della diretta. Allora, dove andiamo? A Elio che ci chiama sempre a sud, siamo, Salerno, buonasera Elio. Abbassi la radio perché sentiamo il ritorno, o la spenga proprio direttamente che è meglio. Elio? Niente, Elio si è distratto, sentiamo... Ha spento il telefono. Ritorno. Ha spento il telefono e sta ascoltando la radio. Luciana, esatto. Da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, io mi faccio una domanda, no? Su Berlusconi. Berlusconi ha 80 anni, è plurimiliardario. Se gli girano, no? Perché con tutte quelle che stanno facendo e via, anche lui... diciamo chiude Mediaset, fa come la fabbrica, quella lì che è sparita, con le sue fabbriche. Ah, dice che se ne deve andare nottetempo Berlusconi? No, che se ne deve andare, se gli gira a lui che se ne va, sì. Il PD glielo fa dare il lavoro a tutti questi italiani? Ah, ho capito, ma... Certo, non è che glielo deve dare il PD, glielo darà un altro imprenditore o la figlia Marina, Berlusconi? Sì. Non ho capito, Luciana. Dico, un altro imprenditore come Berlusconi che viene e con le tasse che abbiamo viene qui in Italia e dà lavoro a migliaia e migliaia di famiglie? Sì. Io però mi sono perso, Luciana, dove voleva arrivare lei con questo discorso? Volevo arrivare che se Berlusconi si stufa di tutto quello che gli stanno facendo e si ritira e chiude tutto... Sì. l'Italia va in mezzo, no, una strada, dico una strada per non dire un'altra. Quindi per cosa. Alcuni potrà sembrare una minaccia, per altri potrebbe sembrare una promessa questa qua, cioè un miraggio, no? Lo sa, ma che Berlusconi divide. Una minaccia, 80 anni, se ne va a pancia in aria alle Bahamas, dove gli pare, chiude tutto. Però guardi, le famiglie italiane che fanno? Berlusconi se ne può andare in pensione anche senza chiudere le aziende, cioè non è che normalmente un imprenditore quando va in pensione poi chiude le aziende. Perché sì, ma gli altri imprenditori non subiscono quello che sta subendo Berlusconi, però. Va bene, Luciana, grazie, buona serata. Tina da Torino, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, volevo chiedere una cosa, no? Se voi lo sapete. Io sento dire che si dà lavoro ai giovani dai 15 ai 30 anni, no? E quelli di 40? Cioè, non ho mai sentito dire per tutti i disoccupati, no? Cioè lei dice che si privilegiano troppo i giovani e non quelli meno giovani nelle politiche per il lavoro? Esatto, una cosa. E poi un'altra cosa. Io ho un figlio, no? Io sono una mamma disperata di un figlio disperato. Perché mio figlio ha chiuso la partita IVA 5 anni fa e qualche lavoretto con le agenzie interinali lo assumono per 3 giorni. Tu pensa, lunedì, martedì e mercoledì. E poi giovedì no, perché altrimenti le dovevano pagare la festività. Quanti anni ha suo figlio? 40, è un termo idraulico. Ho capito, Tina. Non lo so, è difficile entrare nel merito di questa questione qua. Grazie per averci chiamato. Comunque, ripeto, è difficile. Non lo so io su questo cosa poter dire. Roberto Gabardini, tu hai qualche suggerimento per la signora Tina da Torino? No, non credo. No, direi proprio di no. Di darsi al cinema. Ma no, ma direi che in realtà gli aiuti sono in realtà per tutti, è vero, è ovvio, in realtà poi proprio i quarantenni, non lo so, in realtà c'è un grossissimo problema di chi di anni ne ha di più, ne ha 55, quando si intende i giovani, si intende i giovani al primo impiego, di dare una speranza e una possibilità. Poi è chiaro che ognuno guarda in casa propria, no? La si toglie ai quarantenni, almeno non dovrebbe essere questo il tentativo, poi dopo il lavoro ce n'è poco, è questo. Sara da Torino, buonasera. Buonasera. Prego. E io volevo intervenire semplicemente riguardo al blog di cui si parlava prima per risparmio, autoprodursi, sì, le cose in casa, eccetera. Io volevo dire che pur non producendo granché in casa, però facendo la spesa con un po' di attenzione al mercato, scegliendo prodotti di stagione, eccetera, ce la si fa lo stesso anche senza, almeno noi qui ce la si fa lo stesso anche senza dover, come dire, coltivarsi pomodori in vasco. Cioè lei dice ce la si fa, è sottinteso, a risparmiare qualcosa. A risparmiare, ma come fa lei a risparmiare? Ci dia qualche suggerimento. Io del mio piccolo vado al mercato dai contadini, compro i prodotti di stagione, che l'inverno è un po' monotono effettivamente. Ma costano di meno? Costano molto di meno, quando ci sono tante zucchine uno perché le porta si via sente pochissimo. Dire che i prodotti biologici costano di più in certi casi addirittura. Beh, può darsi che in certi casi costino di più, dalle mie parti qua a Torino, se uno va al mercato dai contadini quando è stagione di zucchine, le assicuro che gliele tirano dietro, soprattutto se magari qualcuno sbaglia e ne pianta un po' troppe, si portano via facilmente. E poi qualche altro trucco oltre alla verdura di stagione? Con quello già risparmiamo tanto, per cui in realtà poi ci possiamo permettere, beh oddio, magari la carne la si mangia buona non tutti i giorni, però io sono convinta che con un po' di organizzazione sì, riguardo si può fare. Però si guardi può che fare. Lei è sulla falsa riga appunto di quello che diceva Stefania Rossini, magari lei lo diceva con un po' di impeto, con un po' di orgoglio, poi l'hanno fatto tante interviste, ha scritto il libro, il blog, quindi sembrava un po' battagliera, non si capisce perché in realtà noi volevamo proprio da lei che ci desse il suo punto di vista, però il concetto è quello, insomma si può risparmiare stando attenti, vabbè questa è una cosa di buon senso, però poi quanti lo fanno, questo è il punto. Ah, non lo so, a me viene abbastanza spontaneo perché mi piace anche di più la roba che compro al mercato, sinceramente. Va bene. È anche una questione di sapore. And now, the good news! Da qualche settimana il Comune di Milano ha reso più facile praticare l'arte di strada. Gli artisti potranno prenotare una postazione dal web ed esibirsi in piena libertà, senza carte bollate. Ci sarà anche un comitato che assegnerà ai più bravi i luoghi di maggior pregio della città. Venghino, signori, venghino! Allora, abbiamo Silvio che ci chiama da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Non potevo non intervenire sul discorso della FIDEM di Formigine, che mi tocca, diciamo, direttamente, in quanto... Mi sente? Sì, sì, la sentiamo forte. Cioè, l'azienda che abbiamo detto ha traslocato praticamente in pochi giorni, probabilmente in Polonia, quantomeno ha chiuso senza avvertire nessuno. Perché la tocca, Silvio, questa vicenda? Perché io sono stato per 4 anni consulente di quell'azienda e ho portato avanti con loro un progetto di riorganizzazione, di ottimizzazione e di miglioramento utilizzando il sistema della Lean Organization, e quindi, diciamo, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati. Il portafoglio ordini era un portafoglio pieno, si faceva fatica a stare dietro, quindi sicuramente le motivazioni non vanno cercate né in aspetti di costi o di produttività, né tantomeno in aspetti di carenza di ordini, no? E quindi mi tocca molto, perché mi lascia molto sorpreso dopo un progetto del genere, con un capannone nuovo realizzato di recente, molto bello, molto, molto moderno. Quando è stato fatto questo capannone? Il capannone è stato completato, se adesso non ricordo male, credo 3 o 4 anni fa. E si è visto bene anche in televisione le immagini e tutto, quindi è una struttura molto ampia, in cui c'era ancora una zona non utilizzata, quindi prevista per espansione di ulteriori linee di produzione. Ma lei conosce tutto... la dirigenza, cioè Pedroni, il signor Pedroni? Ho lavorato insieme 4 anni, quindi diciamo che li conosco abbastanza bene, sia lui che la sorella. Ma si era mai lamentato di questa situazione? Lui dice che non si può lavorare, lavoratori licenziati, poi che ha dovuto reintegrare, mancanza di credito delle banche e anche difficili rapporti col comune. Ma io sugli aspetti finanziari non sono entrato, perché loro erano molto riservati e la mia, diciamo, attività non interagiva con gli aspetti finanziari né con quelli che potevano essere con i rapporti verso l'esterno, quindi io da questo punto di vista non lo so. Quello che posso dire è che sicuramente non era un'azienda in crisi. Ecco, quindi lei da consulente, un'azienda in crisi, cioè non in crisi come questa, non avrebbe consigliato comunque di andare all'estero? Perché questa cosa si era parlata, perché era argomento, non dico quotidiano, ma abbastanza comune il fatto che ci fossero nella zona stessa o nel modenese tantissime aziende che stavano chiudendo, molte avevano tentato di spostare produzione all'estero avendo poi ottenuto risultati scadenti, per non dire disastrosi, quindi il fatto che si fossero messo giù delle linee nuove, si fosse progettato un capannone nuovo e tutto, invece in quel momento la volontà ferma era quella di proseguire con l'attività in Italia, insomma. Quindi potrebbe essere stato, cioè, ma potrebbe essere stato un colpo improvviso, cioè io ho detto un colpo di sole scherzando, però è una decisione così improvvisa, però non si trasferisce un'azienda così all'improvviso, probabilmente. No, non si trasferisce, anche perché poi, ripeto, le ripercussioni sul mercato, molti dei loro clienti sono italiani, quindi poi si va a impattare su costi di spedizione. Dovremmo sentire la versione di Pedroni per capirci qualcosa di più. Grazie intanto a lei per aver chiamato. Adesso è il momento, come ogni sera a quest'ora, della nostra bella storia con cui ci lasciamo anche questa sera. Sentiamo. Parliamo di Spazio Grisù, siamo a Ferrara, è un'ex caserma dei Vigili del Fuoco riutilizzata come incubatore di start-up. Gratuitamente viene dato questo spazio ad alcune imprese che se lo ristrutturano e ci fanno la sede della loro attività, e la cosa bella è che questa cosa appunto non costa niente a nessuno, anzi si riutilizza uno spazio altrimenti abbandonato per fare economia, attività, creare posti di lavoro. Salutiamo Fabrizio Casetti, presidente dell'associazione Grisù. Ciao, ben ritrovato. Ci eravamo sentiti, si può fare il programma durante il weekend, quando questa iniziativa era stata presentata, avviata, messa in marcia. Voi adesso quante aziende, quante persone stanno trovando sede lì? Allora, attualmente sono 15 imprese che hanno il loro, a cui sono stati assegnati gli spazi. E ognuna ha già cominciato, naturalmente, come già avevamo detto, alacremente a sistemarsi e ad adattarsi il proprio spazio lavorativo. Questa storia, questa idea, chi l'ha avuta inizialmente? Voi dell'associazione Grisù, però avete potuto fare affidamento sulla provincia, se non ricordo male, che vi ha dato una mano. Sì, noi abbiamo avuto quest'idea, quella praticamente di cercare il modo di agevolare la crescita di chi voleva mettersi alla prova, mettersi in gioco con il mercato. Una delle cose che avevamo visto che era, diciamo, uno degli scogli maggiori era proprio quello di trovare uno spazio dignitoso, di rappresentanza, bello, ma anche, diciamo, poco costoso. E quello, appunto, quando abbiamo presentato, abbiamo trovato questo edificio che ci piaceva molto, abbiamo scoperto che era della provincia, siamo andati a presentare il progetto presso l'amministrazione provinciale e abbiamo preso sul serio. Hanno preso sul serio e perché hanno accettato la scommessa. Bisogna dire che gli aspetti positivi di questa cosa sono molteplici. Allora, la provincia non deve, diciamo, spendere dei soldi per fare la manutenzione di questa caserma abbandonata. Sappiamo che, che, insomma, l'edilizia abbandonata per gli enti pubblici è un fatto che c'è. Insomma, uno dice: posso vendere l'ex caserma a qualcuno, ma se non trovo nessuno che me la compra, intanto che faccio? O va in malora oppure la devo risistemare. Invece, già qua si risparmia. Poi arrivate voi. Che con l'incentivo di una sede regalate praticamente per quanti anni? Come cosa prevede il contratto? Allora, il contratto attuale prevede una, diciamo, un comodato gratuito precario per 5 anni, 3 più 2. Quindi uno fa dei piccoli investimenti di ristrutturazione e si trova gratuitamente una sede per almeno 5 anni. Sì, e dobbiamo, appunto, in questi 5 anni dobbiamo dimostrare alla provincia di fare sul serio. E già la provincia ha visto che lavoriamo bene e in meno di un anno lo spazio è già stato ripulito, sgomberato, eccetera, e quindi già stanno pensando, appunto, di vedere il modo per farcelo, per prolungarla questa cosa, per prolungarlo da dare il modo alle aziende di, diciamo, di stare più tranquilli e anche, certo, perché uno se ha davanti a sé più tempo, diciamo, invece un contratto di 5 anni degli investimenti che sono stati fatti per ristrutturare questa caserma. Un modello che andrebbe preso a modello per l'appunto per questo del riutilizzo dell'edilizia abbandonata, e voi siete, diciamo, un esempio molto virtuoso di questa cosa qua. Tra l'altro si parla molto del co-working, cioè voi mettete anche questa valore in più, cioè le aziende stando insieme tra di loro fanno amicizia, fanno sviluppano. Praticamente abbiamo degli spazi in cui noi abbiamo selezionato le imprese culturali creative, diciamo, come tipologia di imprese da mettere lì all'interno, perché sono quelle che, lavorando gomito a gomito, traggono vantaggio. Sì. Quindi mettere un designer vicino ad una casa editrice, vicino ad un progettista, vicino ad un prototipatore o ad un meccanico di precisione, non sai cosa può scaturire. Di conseguenza, per loro è tutto un vantaggio, e il nascere, come è già successo, di nuove sinergie, idee inaspettate e possibili nuovi affari e idee business, insomma. E vabbè, insomma, complimenti per quello che fate. Quando Gavardini, hai sentito che bella cosa che fanno a Ferrara? Ho sentito molto poco, confesso, perché qua a un certo punto non ho sentito più niente. Sta calando la notte e sta calando anche il silenzio. Va bene, Gabardini, esatto, noi ci risentiremo sicuramente domani. Speriamo di averti ancora in linea. Casetti, intanto, dello spazio Grisù, complimenti per quello che fate. Quando inaugurate, stavo chiedendo, fra poco? Allora, noi inauguriamo, cioè festeggiamo un anno di insediamento, aprendo, diciamo, le imprese il 5 ottobre, e stiamo finendo, appunto, anche di raccogliere fondi, anche questo proprio come oltre in chiusura abbiamo 10 secondi, 5 ottobre raccogliete fondi, va bene, insomma, chi è interessato può andare anche su internet a cercarvi o su Twitter @spaziogrisù. Buona serata a lei, buona serata a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Ci sono alcuni che hanno chiamato per la questione dell'Egitto, la rimandiamo a domani perché è interessante sentire cosa ne pensano gli egiziani che stanno in Italia. Grazie, buona serata a tutti, a domani.